Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Siete l'abisso, veramente, l'abisso dell'ignoranza, e purtroppo chi si specchia dentro di voi viene preso in questo vortice di ignoranza borghese, piccolo borghese, voi e le vostre Hogan di merda, veramente, cioè, tremendi, e Parenzo, poveraccio. Io non ho mai messo quelle scarpe in vita mia, mai messo quelle scarpe in vita mia. Tu forse sì le hai messe. Io no. Non dirò sì o no, perché non voglio fare pubblicità a nessuno. Ma che c'entra pubblicità? Non ce ne frega niente, basta dire la verità. Allora sì, le ho messe, in passato le ho messe, ma quel povero borghese, sentitevi pure borghese, ditevi pure elegante borghese, ditevi pure snob, ditevi quello che volete, ma andate a fare in culo. Allora, io sono, come sapete, molto aperto in fatto di transessualità, bisessualità, gayismo, frocismo vario, eccetera. Però devo dire la verità, transessualità, e mi ha molto colpito una storia Trump che... Trump-sessualità. Sì, transessualità. Cerca no, di alzare... Trump-sessualità. Ecco, alza questo cazzo di voce, se no non si sente una mazza. Trump-sessualità, la sessualità un po' animale... Vabbè, abbiamo capito, tanto non si sente. Allora, mi ha colpito però una storia incredibile. Cioè, un signore che in realtà è una donna, ma si sente un uomo, e poi ha cominciato a fare anche una cura di ormoni, sono spuntati dei peli, eccetera, eccetera. Adesso sta allattando il seno, perché in realtà è una donna. Sta allattando i due figli, ha messo al mondo due figli. Si chiama Trevor McDonald, è nato in un corpo femminile. 8 anni fa ha cominciato la transizione per diventare uomo, nel frattempo però ha messo al mondo 2 bambini, 2 gravidanze, e praticamente allatta al seno. Dunque tu vedi questo uomo che allatta al seno, un piccolo seno, ha dei peli, gli occhiali, i baffi, la barba, e però allatta. Parenzo, che effetto ti fa? Tu che però vedi... non posso dire una porcheria, però mi fa effetto, sì, dai, sarei un ipocrita se dicessi... Ti fa effetto una donna che vuole diventare uomo e nel frattempo mette al mondo 2 figli e allatta questi figli. Mi fa molto effetto, mi fa molto, molto, molto effetto, e non osare dire che è normale. Non dire che è normale. Perché non è normale. Non è normale. Mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. La pensi come Adinolfi, eh? Dico solo questo, la pensi come Adinolfi. Ma perché per te è normale che uno con i peli... Ma ragazzi, che cosa vuoi che ti dica? No, ma cioè... voglio dire, non è un atto di egoismo quello, vuoi diventare uomo, diventa uomo. Ma perché devi fare 2 bambini, allattarli con i peli? Ma scusa, ma che differenza? Se non capisco qual è il punto. Questo qua ancora è donna, vuole diventare uomo, nel frattempo mette al mondo 2 figli. Ma c'è una confusione, è tutto un casino. Dai, mette al mondo 2 figli e allatta, lì, sta a fare col biberon, ninna, nanna, ninna... Scusa, non ho capito, ma se io considero normale il fatto che il signor Bendola vada in America a fare quello che fa e quello che ha fatto, sostanzialmente comprare, io lo dico, comprare, per me è giusto, è corretto, comprare un bambino, perché non dovrei considerare normale una cosa del genere? Questa ancora è donna, ha partorito e intanto sta diventando uomo, e allatta con gli occhialetti, con i baffi e con i peli, con questo piccolo seno. Ma che mondo vuoi? Ma che mondo è? Vabbè, ma che mondo? Ma non è che sono tutti così, dai. Ma Vendola ha scelto e sa perfettamente quel che vuole, cioè Vendola ha una scelta molto chiara. Questo qui o questa qui, con tutto il rispetto, se deve fare, non è la scuola, non è un è una porcheria, vabbè, tu pensi che sia una porcheria, vabbè, d'accordo. Beh, un po' sì, ma una porcheria, d'accordo. Ma sì, ma sono strano io, dai. In fondo sono stato normale allattare con i peli e poi ti tirava fuori il bigolo e spiegherai ai tuoi figli: no, io ero donna, mentre ero donna ho fatto due bambini, poi mi sono fatta mettere il bigolo, ho i peli e allà. Per te è normale, vabbè, è normale così, ma sono strano io, sono strano io, sono strano io. Allora, leggo da qualche parte, tanto per parlare di cose che riguardano la politica, di cui ci occupiamo giustamente sì. abbastanza poco. Orfini. No, Orfini no. Non voglio sentire la parola Orfini, tutti i casini del PD, Madia che parla di Orfini bravo. E gli altri che la difendono. Non me ne frega nulla di questi impicci del Partito Democratico, li risolvessero tra loro. Non voglio sentire né voci, né cose, niente di niente. Litigano perché hanno perso, è normale che succeda in però Italia. Parliamo dello no. splendido atto della Raggi che come da sindaco di Roma come prima cosa ha fatto il saluto alle fosse ardeatine, il suo omaggio. No vabbè, ma questo anche bello. Questo tutte cazzate. Ti voglio dire una cosa, ho letto che forse Renzi sta cercando il modo di non dimettersi se dovesse perdere il referendum a ottobre. Beh, corretto, cioè, corretto. Una sorta di, e tu che sai tutte queste cose, di exit, di strategia, di una piano strategia. B. Esatto, di piano B. Oh, io voglio farti riascoltare, anzi voglio farvi riascoltare, voglio farvi riascoltare al grande popolo della Zanzara, giusto per dare un piccolo assaggio di cose politiche, quello che ha detto Renzi nei mesi scorsi a proposito del referendum di ottobre. Perché si può sempre cambiare idea, naturalmente, come ci ricordava il meraviglioso Rotondi, la politica è fatta di queste cose, cioè di cambiare idea repentinamente e nessuno in realtà poi ti fa pagare dazio quando cambi idea. Senti Renzi che cosa ha detto, ma non due anni fa, qualche mese fa. Se io perdo, con che faccia rimango? Cioè, scusate, ma... E lei conferma, cioè, qualora si... La referendum... Ma non è che non è che vado a casa, smetto di far politica. Perché, scusi, questa non è personalizzazione, questa è serietà verso i cittadini. Io ho detto che se perdo il referendum, non è soltanto che vado a casa, ma smetto di far politica. Che magari è un incentivo per tanti per andare a votare contro. C'è il rischio che con il referendum gli italiani votino per te o contro di te. Questo rischio c'è, però secondo me la riforma costituzionale è una riforma che deve votare sul Senato, non su di me. Poi è chiaro che io devo trarne le conseguenze, perché ho fatto il governo per fare le riforme. Siamo riusciti laddove nessuno riusciva a ottenere il risultato. Se non ce la facciamo, è giusto che si vada a casa. Ah, ragazzi, non voglio sentire niente, Non voglio sentire nulla. Non voglio sentire niente su questa roba qua. Non voglio sentire niente, piano di uscita, eccetera, eccetera. Se uno perde, a casa. Cioè, mi pare più chiaro di così, no? Cioè, ma ci mancherebbe altro. Non può essere, dai. Allora, caro Lo Cicero, io non so più veramente come appoggiarti, caro Andrea Lo Cicero, e sui Frocetti ti ho appoggiato, pure ieri alla fine, dopo un po' di maretta, un po' di casino, ricordiamo che Andrea Lo Cicero, ex rugbista, potrebbe diventare assessore, è stato addirittura nominato dalla Raggi, cioè nominato non nel senso ufficialmente, è stato detto dalla Raggi prima addirittura della vittoria che sarebbe stato l'assessore allo sport, ai giovani del Comune di Roma. Lo Cicero, catanese, ex rugbista famoso, eccetera, eccetera, detto il barone, sì, Lo Cicero, il quale... Non il barone nero, il barone. No, il barone, detto il barone. Vabbè. Ha detto Frocetti chi si mette le protezioni, eccetera. E su questo, passi questo. Zingari di merda, in una intervista, in un fuori onda, sentiamo. Come dire, qualcosa in più. Zingari di merda, scusate. E vabbè, questo ieri, questo ieri è stato scoperto pure questo video. C'è una novità, che è successo? È successo che le telecamere della 7 della trasmissione alla Raghettina vanno a casa di Lo Cicero per cercare di intervistarlo, cosa che noi abbiamo fatto alla radio. È più semplice, naturalmente, basta che chiamiamo. Ieri ci ha mandato gentilmente a fare in culo quando lo abbiamo chiamato per la seconda volta. No, ha detto no, non voglio parlare, chiamatemi tra una settimana. Beh, amico mio, una settimana, cioè, hai detto zingari di merda, ti chiamiamo oggi, quando ti dobbiamo chiamare? Comunque, per carità, si può rispondere o non rispondere. Pare che si siano presentate le telecamere davanti a casa di Lo Cicero, che non è manco a Roma, è a Nepi, e sentite cosa raccontano. Vespa, la nostra giornalista, la nostra inviata Eloisa Covelli, ci ha appena fatto sapere che era andata questa mattina a cercare l'assessore in pectore del Comune di Roma, il grillino Andrea Lo Cicero, nei pressi della sua abitazione a Nepi, vicino Viterbo, e voleva intervistarlo. Pare che lei adesso sia dai carabinieri, sta sporgendo una denuncia per violenza privata e danneggiamento, perché Lo Cicero gli ha aggrediti, secondo quanto ci racconta la Covelli, e ha danneggiato la telecamera. Vabbè, questo è quello che dicono naturalmente da quella parte lì. Bisogna vedere quello che dice il signor Lo Cicero. Signor Lo Cicero. Sì, no. Fa la denuncia. Beh, che c'entra? Non è che tutti quelli che fanno la denuncia hanno ragione, altrimenti. Uno si inventa l'aggressione con le Ah no, ma sai, magari questo ha dato uno spintone. Il signor Lo Cicero ha dato uno spintone. Normale, anche questo. Normale. No, non ho detto che è normale. Una donna trasformarsi in uomo e allattare mentre sei uomo. Normale aggredire una telecamera. Ma non ho detto normale. Questo, figurati, figurati se ho detto che è normale. Ho detto semplicemente che magari questi sono stati insistenti, quello gli ha detto andate a fare in culo, quelli non se ne andavano e quello li ha mandati via da casa magari. Però, oh, se c'è la denuncia, c'è la denuncia, per carità. Però Lo Cicero si deve abituare, perché qui, caro amico mio, ti devi abituare al fatto che se sei nominato assessore a Roma e dici zingari di merda, basta dare una spiegazione, no? Ho detto zingari di merda perché è un'espressione che mi è scappata perché accanto a me è passato un gruppo di zingari zozzoni, cioè non lo so, oppure hanno fatto rumore con la macchina e mi è scappata l'espressione zingari di merda. Uno risponde, perché altrimenti non è che si può chiudere, no? Si può chiudere a casa così barricato e non rispondere, dai. A proposito di Roma, voci da Tor Bella Monaca. Senti, mi piacciono queste voci. Ogni tanto i servizi in televisione recuperano delle voci, no? Le voci della rabbia. Le voci della rabbia lo trasformano, fanno sembrare Roma una specie di Calcutta, no? Tutto, tutto terribile, Roma che gronda sangue, gronda rabbia. Senti, senti, senti, Tor Bella Monaca, senti. Niente, che gli volevo dire che da Tor Bella Monaca stavo proprio in mezzo alla merda, se dice a Roma. Ah, ecco, una cosa, diciamo, sì, sì, un concetto chiaro, ecco. Sì, perché sì. Fa proprio schifo. Sì. Perché ci stanno i sorcetti, ci stanno le sorche qua. Beh, questo è eccezionale. Però non è che stanno in mezzo alla merda da qualche anno. A Tor Bella Monaca si sta in mezzo alla merda da una marea di tempo. Cioè, da quando esiste Tor Bella Monaca, in pratica. È un quartiere terribile di Roma, eh. Signori di Tor Bella. Terribile. Beh, amico mio, sì. Cioè, ma vivresti a Tor Bella Monaca tu a Roma? Vivresti a Tor Bella Monaca? Ma fossi matto. Appunto. Cioè, vivi, vivi a Prati e non rompere i coglioni. E io lo dico apertamente, è proprio terribile. È un quartiere del cazzo. Perché, con tutto il rispetto. Tante volte è un territorio abbandonato dalla politica. Sì, vabbè. Senti, senti quest'altra cosa. Senti, senti quest'altra cosa. C'ho il barcone e mi crolla, se sotto qualcuno muore, e usa la pianta il culo lui che muore. No, Ma questo è stupendo, c'ho il balcone che crolla, se crolla qualcuno sa via under culo. No, ma dal suo punto di vista non dice neanche, ha ragione, perché la casa non sarà sua, sarà una casa popolare. Le case popolari, ma no, ha ragione lei, ha ragione lei. Sono in Italia. Tecnico. Sono in Italia. Ma ovviamente l'ha posto lei la sua, il balcone, non ho capito, sarà una casa popolare, l'ha detta posto comune, no? Fermo. Io e la mia ragazza ormai, lei in Italia, io in Lituania, quando ci salutiamo non ci diciamo più quelle stronzate come mi manchi, ti amo, buonanotte amore, ma ci diciamo soltanto tra... La Zanzara. Allora, sembra che ci sia un video di Andrea Lo Cicero su Facebook che risponde a questa roba qui, dice che non c'è stata nessuna aggressione, eccetera, eccetera. Fra poco ve lo proporremo. Allora, l'islamico di ieri, quello che vi abbiamo proposto di un gruppo abbastanza sconosciuto, si chiama Hamid, Sawada Hamid, numero uno assoluto. No a mia figlia con la minigonna. No a mia figlia con la minigonna, senti. Non voglio che mia figlia porta la minigonna. Tante volte troviamo delle donne che fanno delle provocazioni fino a che quello si arrabbia. Le provocazioni, provocazioni di quello si arrabbia, quello si arrabbia. Poi dice che nell'Islam c'è l'indicazione su dove fare la pipì. Sì. Bah. Normalmente in Islam c'è e l'indicazione per fare il pipì, di fare i tuoi bisogni, dove puoi farli, dove non puoi farli. Ma veramente nell'Islam c'è l'indicazione su dove fare la pipì? Questo è curioso. Beh, su... ma questo è giusto, è normale. Cioè, ma no, ma ti pare che la religione mi deve dire dove posso fare la pipì o no? Ma scusa, ma solo voi siete matti. Ma non è una religione che è fondata anche molto sull'igiene e sulla pulizia, per cui è evidente che tu e le tue porcherie di fare la pipì nel lavandino dove lavi i piatti, l'Islam ti dice no, perché è impuro, ad esempio, farlo dove ti lavi i piatti, dove lavi i piatti, capito? Claudio da Roma. Vai Claudio. Buonasera. Dimmi. No, ero partito con l'idea di Adinolfi che urlava, ma poi sotto sotto penso che pure lui avrebbe un piacere disumano di poter allattare qualche creatura. Ma no, non credo adesso Adinolfi allattare, perché dici così? Ma pure Ferrara, c'è questa sensazione. Vabbè, ma tu dici, per le caratteristiche fisiche, dai. Perché c'è, io l'ho visto in costume, c'hanno le mammelle. Vabbè, ma che c'entra porto. Quello adesso te la stai prendendo. Comunque, col fisico, sì, dai. Senti Giuseppe, io però adesso il problema di Adinolfi e Ferrara cade in secondo piano. Ci abbiamo un personaggio di nome Lo Cicero, no? Lo Cicero, avrà sbagliato. Pure io nella vita a 63 anni sono un credente di quelli molto attivi, mi scappò una bestemmia. Vabbè, può passare. Però adesso Giuseppe, riusciamo a creare una situazione di benessere con gente onesta. Ma stiamo a guardare se Lo Cicero, forse. Ma lui scusa, ma che vuol dire a me? Non è che sto a la pista questo. Ma Claudio, ma non è che Claudio, io non è che sto attaccando la Raggi, a me non me ne frega niente. Cioè, io guardo una roba che esce, una notizia che viene fuori, una frase che viene detta da uno che potrebbe fare l'assessore a Roma, potrebbe farlo con la Meloni, con Salvini, con Gesù Cristo. Non mi interessa, ma non me ne frega niente. Tanto oramai la gente ha capito, non è che parlando dello Cicero in negativo, della Raggi in negativo. C'è il 70% dei romani che, come dicono a Tor Bella Monaca, ma vivono nella merda, perché se qualche casa popolare si faceva i parioli e forse prendevano dei voti pure ai parioli e quelli del Movimento 5 Stelle, invece le case popolari facciamo sempre all'estremo. Sì, ma perché dovete interpretare voi che siete elettori e cioè dei 5 Stelle tutto come contro di voi? Avete preso il 65% a Roma. No, ma io a 63 anni ho pregato. Vabbè, ciao tesoro, ciao. Lo so, ti dà fastidio. Cosa? Che arrivasse cosa? Ti dà fastidio. Cosa mi dà fastidio? Ero 50 anni che aspettavo questo momento. Quale io momento? Mi sono rotto quale? I coglioni di vedere gli Andreotti e compagnia bella. Ma che c'entra Andreotti? È morto? Che vuol dire? Quello è stato un prescrizione fino all'81. No, capito? Ma ho capito, ma che c'entra? Aspettavi questo momento cosa? Aspettavi questo momento che cosa? Che arrivasse di vedere qualcosa di positivo, di nuovo. Di pagare le tasse e sapere che non vanno nelle solite bocche dei Caltagirone e degli amici del Caltagiro. No, ma questo non lavorerà più a Roma, lo sai. Beh, decide lui che non lavora più a Roma, capito? Però Claudio, tu dici una cosa, che mi fa capire, uno dei motivi per cui poi alla fine il Movimento 5 Stelle ha preso il 62-63% a Roma, cioè dire la sensazione, sì, vabbè, noi le nostre tasse le paghiamo anche per coprire i buchi di Roma, però se ci sono questi almeno sappiamo, ragazzo, che non vanno a finire in mani. Noi paghiamo 14.000 euro di tasse all'anno per pagare lo stipendio a Giachetti, ti rendi conto? Ritornato col suo culetto sulla poltrona, si doveva dimettere come se candidato a sindaco. Ma da dove? È tornato dalla Camera, diciamo. Vabbè, ma è un'opinione, è un'opinione legittima. 14.000 euro per non capire un cazzo. No, capito? Questa qua però devo dire la verità, Parenzo, io non la condivido, però è un'opinione legittima. A te 14 che ti fa capire, Giuseppe. Che ti fa un'opinione legittima. E a Parenzo avrei dato 8.000 euro al mese per rimettere gli orologi della Camera, pensa. Lo vestivo in livrea, a Parenzo 8.000 euro. Ma chi? A Parenzo. Io avrei fatto fare il commesso al Parlamento. Ma perché è male questo? E non è male, si sarebbe guadagnato 8.000 euro facendo un lavoro. No, però questo è, secondo me, la fotografia di chi ha votato 5 Stelle. Ciao Claudio, Miguel Treviso, ciao Claudio, Miguel, dimmi Miguel. Buonasera, dimmi. Salve Giuseppe. Dimmi. Senti, no, io ho telefonato tempo fa perché avevo fatto una pagina Facebook. Che sì, ho capito, abbassa la radio però, abbassa la radio amico mio, dai, forza. No, la radio è spenta. Vai, dimmi. Ecco, niente, telefonavo per due o tre cose. La prima è che in quel momento Parenzo diceva che io ero uno spostato, che questo. No, Miguel, l'altro. Però tu mi devi parlare di una cosa di oggi. Non mi ricordo il tuo intervento qualche mese fa. Dimmi che cosa donne vuoi dire. Pelose crepe. Io voglio rivalutare la donna pelosa. Ma questo me lo ricordo adesso. Sì, vuoi rivalutare la donna pelosa? Vabbè, no, per non carità. C'è problema, ma io trovo che le donne pelose devono essere rivalutate. Va bene, d'accordo, ma ognuno ha la sua fissazione. Hai fatto la pagina Facebook, abbiamo capito. Poi sì, andiamo avanti. Poi quello che vorrei è far arrivare questo messaggio alle donne. Vabbè, ma abbiamo capito, Michele. Adesso non possiamo parlare alle 18.54 di questa roba qua. Di che cosa vuoi parlare? Di cosa vuoi parlare? Ma io ti niente, ciao. Marco dalla provincia di Torino. Pronto, buonasera. Dimmi, Marco. No, semplicemente telefono perché ho subito un tentativo di integrazione da parte di due mediatori culturali Rom qualche sera fa, che hanno provato semplicemente a entrarmi in casa. Ah, i Rom hanno cercato di entrarti in casa? Sì. Mediatori culturali. Vabbè, poi? E niente, adesso, visto che questi qua comunque non vogliono le case, perché non gli interessa, vogliono l'elettricità gratis, io mi sono organizzato e ho fatto un antifurto intelligente, ho fatto quello che viene tecnicamente chiamato l'arco voltaico. Cioè? La prossima volta che vengono a toccarmi la serratura di casa, si prendono una scossa, bella forte. Può darsi pure che non siano loro però che vengono, magari... No, perché mi hanno segnato la casa. Ah. Sono andato a vedere su internet e... Non so viene se si possa viene definito obiettivo interessante. Tra parentesi, vivo in una casa... Scusa, ma non ho capito, ma tu... Non si possa fare. Di tu che come... Come li consideri Rom? Io? Non le considero, nel senso che se si fanno i cazzi loro, si fanno i cazzi loro. Ma sono esseri umani o no? Sono esseri umani, almeno. Tranne che quei due che sono venuti a trovarmi, quelli così, no. Beh, quelli sono ladri, cioè... lo so, però... Ma tu politicamente come sei messo? Come la pensi? Sono stato per anni, anche perché mio nonno era un comunista, bergamasco. Invece adesso? Adesso sono... No, tendenzialmente neonazista, direi quasi. Ah, sei neonazista. Tendenzialmente neonazista. Vabbè, ma adesso, adesso spieghiamo. Ma spieghiamo. Il problema, no, aspetta, adesso abbiamo un'altra cosa, abbiamo un'interruzione. Non ti preoccupare, Marco, adesso vengo da te. Ma un referendum per cacciare Parenzo no, Un bel Parexit. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. La Zanzara. Sì, qui io vivo a Londra, non si parla nient'altro che di Brexit, no Brexit, ma a me onestamente me ne frega ben poco. A me l'unica cosa che interessa è vedermi con Carmine da Roma questo weekend a Nova Gorica. Beh, amico mio! Allora, chiudiamo questa roba che riguarda Lo Cicero, Andrea Lo Cicero, che è ex rugbista, ripeto, dovrebbe diventare assessore a Roma ai giovani, eccetera, ha detto Procetti una volta, Zingari di merda un'altra volta, eccetera, eccetera, pare che abbia aggredito una troupe della 7 questa mattina, lui ovviamente smentisce, manda addirittura le immagini. Allora è vero che stava registrando la nostra telefonata l'altro giorno, perché qui si è presentato davanti agli inviati della 7 con una piccola telecamera. Da qui esce fuori che cosa? che hanno chiesto a lui un'intervista, lui ha detto di no, loro sono arrivati lo stesso, non si capisce se questa stradina è già proprietà privata oppure no, lui ha messo una macchina di traverso per impedire alla macchina della giornalista e dell'operatore di uscire, la giornalista accusa lo Cicero di aver aggredito l'operatore, aver spaccato non so che parte della telecamera, dopo sono andati dai carabinieri eccetera eccetera. Insomma, una storia complessa, a me non mi pare di aver visto, almeno nelle cose che abbiamo visto noi, è un'aggressione. Però la giornalista dice che lui ha aggredito il cameraman. Voi direte, chi se ne fotte naturalmente. Pure io dico chi se ne fotte, però che te devo fare? Che io ieri gli ho chiesto gentilmente e sono stato cortese. Giornalista, sono tenuto in ostaggio da Andrea Lo Cicero, vicino Nepi e via Cassone 99. Praticamente sono andata a fare delle immagini intorno a casa sua. Ho fatto una stradina adiacente a casa sua che lui dice essere proprietà privata, ma io non posso saperlo perché non c'è scritto nulla. E praticamente è venuto, ha rotto la telecamera al mio operatore, gli ha staccato l'obiettivo e poi adesso sta bloccando la sua auto, la mia auto con la sua auto e io non posso uscire. Ah, addirittura sto per menare, guardate, vedi, io sto per menare questa persona, guarda, guarda, guarda, ha detto che si chiude in macchina, sto per menare, guarda com'è aggressivo lo Cicero, guarda, lo Cicero è aggressivo, là c'è l'operatore e lo Cicero non fa niente, ed è aggressivo, lei si è chiusa in macchina, dicendo ai carabinieri che sta succedendo tutto ciò, bene. Vabbè ragazzi, a proposito di Rom, adesso fra poco vi facciamo riascoltare le voci, le parole di Mastella sul vitalizio, che sono hanno provocato un po' di casino, un po' di scalpore, la gente incazzata perché dice come io 9.000, anzi ascoltiamole subito, ma Mastella che dice che ha un vitalizio piuttosto... 8.000 euro. No, lui dice in realtà 6.500, ma fa un calcolo credo sul netto, non sull'ordo. Comunque, vabbè, comunque no... non è uno, quello lì ha fatto politica tutta la vita, li ha, quei soldi lì li ha presi perché sono i soldi che ha versato, sì. Certo se li ha fatti come altri parlamentari, quella legge. Dopodiché non saranno questi 8.000 euro che mettono in crisi il bilancio, se non cominciamo a far populismo. Ha ragione Mastella. Allora io dico una cosa, io non voglio togliere il vitalizio a nessuno, figurami se voglio togliere il vitalizio a Mastella. E per me i vitalizi andrebbero cancellati a tutti, non solo a Mastella, cancellati tutti i vitalizi. Ma detto questo, così faranno politica soltanto i Trump. Ma non è vero, ma sono cazzate queste qua. Comunque risentiamo un attimo quello che ha detto Mastella, perché Mastella ha detto anche una cosa, io senza vitalizio devo andare alla Caritas, cioè questo è il punto, capito? Cioè siccome ho 6 nipoti, uno potrebbe dire sti cazzi, non è che col vitalizio uno deve far campare i nipoti e 3 figli, cioè mantiene tutto l'arco familiare, no? Una volta era l'arco costituzionale, mantiene tutta la famiglia, secondo le sue parole. Io tengo 6 nipoti, ragazzi. Ho capito, ma c'hai 10.000 euro di vitalizio. Come fa lui? Come faccio io? Ma c'hai 10.000 euro di vitalizio, però. E che devo fare? Mi voglio togliere pure quello. Non mi piglio la cosa. Utilizzo la macchina mia. Non utilizzo i cosi telefono al comune. Non utilizzo un cacchio. Ma volete che qua per cacciare le mosse pure a voi? Vado alla Caritas pure io. Vabbè, la Caritas con 10.000 euro adesso. Ho capito, ma li spendo. Ma che ti servono? Sei nipoti, 3 figli, di cui una ragazza adottiva. Se volete farmi fare. No, per carità, però. Deve sposare, pure ma scusa, pensano di tagliarli questi vitalizi adesso, eh? Sì. Se li tagliano, se li tagliano, che devo fare? Mi sono dimenticato la ragazza adottiva. La ragazza adottiva che deve sposarsi, signor Mastella. Sì, dal suo punto di vista ha ragione, cioè lui ha fatto un calcolo nella sua vita, no? Esatto. Sì, però tu non puoi dire, uno deve dire, ragazzi, io ho questo vitalizio. Ma perché lei è stato molto onesto, ha lavorato, cioè ha fatto politica. Per qualcuno fare politica, partiamo da questo presupposto, per molti, purtroppo, fare politica equivale a non lavorare. Ma Salvini ha mai lavorato in vita sua? No, che ha fatto? Ma, fatto un po', ma lascia perdere Salvini, adesso stiamo parlando di Mastella. No, il punto è un altro. Se tu dici, fermo, stai zitto che tanto non si sente. Il punto fondamentale è uno. Se uno dice, questi sono i soldi che mi spettano per legge, va bene. Ma se uno dice, ho 6 nipoti, 3 figli, una figlia adottiva. Entra! E me, 6 nipoti, 3 figli, una figlia adottiva, mio nonno in carriola, eccetera, eccetera. Uno dice, scusa, ma non è che devi mantenere tutta la famiglia con i soldi nostri. Cioè, forse se... nostri? Cosa vuol dire nostri? Ah, non sono nostri quei soldi. Se li sono attribuiti loro, con leggi fatti da loro. E allora? Nostri, cosa vuol dire? Dai. Ma no, aspetta che c'è il neonazista qua, Marco dalla provincia di Torino, che ha detto che è diventato neonazista. Che vuol dire, Marco, essere diventati neonazisti? Non ho capito. Questa semplicemente era una provocazione, non potrai mai essere nazista. Tu l'hai detto, sono neonazista. Sì, assolutamente sì. Però, ma come assolutamente sì, cosa? Sì. Allora, si mi fa spiegare, praticamente cosa non succede? Non c'è da spiegare niente. Parenzo. Allora, non c'è da spiegare, c'è da essere spiegati allora. Per quello che si è detto e basta. Allora, allora, tra parentesi mio nonno l'hanno... Cosa sì? Ma che vuol dire essere diventati neonazisti? Spiegami. Quella sera lì così che sono entrato in casa, sinceramente, che avessi avuto un lanciafiamme le seccavo. Cioè il lanciafiamme, lanciafiamme. Perché non avrei dovuto farlo, sinceramente. Ma no, se entrano dentro casa, per carità, però il lanciafiamme... Lanciafiamme, mi sembra un po' esagerato. No, la pistola va bene. La pistola va bene. Tra l'altro circola negli Stati Uniti un video meraviglioso, dopo ve lo faccio sentire anche se in inglese, bellissimo, in cui c'è un papà che insegna una figlia di 10 anni, credo, intorno, come mia figlia, come tua figlia, David, 10 anni, 11, 9, eccetera, eccetera, a sparare col mitra. Sì, c'è anche un altro video che avrei notato. È meraviglioso quel video. C'è anche un altro video invece che gira su Facebook di una mamma che dice: guardate cosa si è portato la vendita delle armi. I bambini che fanno le esercitazioni. Sì, bello, stupendo, meraviglioso, ecco, trovo no, tutto stupendo. Mamma. I bambini che si esercitano, il papà che insegna alla figlia a tirare via la sicura, a sparare col mitra, eccetera. Io lo trovo una cosa meravigliosa. Io se potessi lo farei con mia figlia, lo sai? Assolutamente. Assolutamente. Con ma mia figlia insegnare l'amore, ad abbracciare le cosa persone, c'entra? Che vuol dire? Allora, se io potessi farlo, purtroppo in Italia non si può fare, che siamo un paese arretrato. Si potesse fare in Italia insegnare, portare i figli di 10 anni alla scuola di tiro coi mitra, io farei questa cosa domani mattina. Confesso questo, da bambino, adesso ti farà ridere questo, io ero l'unico bambino maschio tra i miei compagni di scuola delle elementari, insomma, a cui i genitori non hanno mai regalato le pistole finte, ad esempio, cioè i miei... E vabbè, chi se ne frega? Che me ne frega a me che tu hai avuto? Io nemmeno ho avuto le pistole finte, ma chi se ne frega? Io non ho avuto. E vabbè, ma ce ne faremo una ragione. I miei ritenevano molto violento quel tipo di... E vabbè, i tuoi ritenevano violento, altre persone trovano violento. Non me le hanno mai regalate neanche da bambino. Io faccio questa confessione molto... Ma non è una confessione, è una minchiata. Ma è una minchiata che non frega niente a nessuno. I tuoi non hanno... I tuoi non ti hanno mai regalato pistole finte, vabbè, d'accordo. Uno scopo educativo, vabbè. Sì, ma non è che la cosa giusta è la tua, invece quel papà e invece quel papà che ho capito, e invece quel papà che no, ma non ti preoccupare, e invece non mi preoccupo io, figurati. Ma lascia perdere. Quel papà che insegna a sparare i bambini, il proprio figlio è un coglione. Ma che cazzo dici? Ma non dire cazzate. Io, ma non dire. Ma come fai a giudicare? Come fai a giudicare? Io trovo che questo papà che insegna alla figlia a sparare con il mitra, ma è un miserabile. Tu proprio hai un disprezzo per chi la pensa diversamente da te, che è incredibile. Hai un disprezzo per chi la pensa diversamente da te, che è incredibile. Cioè, c'è la maggior parte dell'America che se ne fotte delle cose che vuole fare Obama sulle armi, e giustamente ogni stato fa i cazzi suoi. E c'è questo padre che insegna alla figlia come sparare col mitra, come mi si tira. Ma che a te fa schifo? Io lo trovo fenomenale. Cioè, io se potessi lo farei domani mattina. E perché? Sulla perché base sì. Di quale principio? Ma che vuol dire? Perché penso che l'autodifesa sia fondamentale, Marco. Ma che dici? L'autodifesa tu? Marco, fammi sentire, Marco. No, giuro. Il mitra. Voglio che impari a sparare col mitra, chiaro? Il mitra. No, ma che questo comunque non è il nostro destino. Noi abbiamo uno stato che ci costringe a fare la vita della buona Dorina, cioè mi ha carcerato in casa, ho dovuto mettere le inferriate, la mia fidanzata non dorme più la notte. Io lavoro di giorno, la sera mi chiudo in casa come se fossi gli arresti domiciliari, devo avere paura. E questi qua libero vanno in giro liberamente. I carabinieri che ho contattato, tra parentesi voglio ringraziare perché sono stati velocissimi e bravissimi. Questi sono venuti al telefono, mi hanno detto una cosa: tanto le becchiamo, il giorno dopo sono fuori. Cioè io devo fare la vita da carcerato, io mi alzo al mattino, vado a lavorare, pago le tasse, c'ho due bambine adottate con Save the Children, mi devo beccare del razzista perché la penso diversamente dagli altri, quella che non sono, e devo continuare a vivere così io, grazie a questo buonismo del cazzo. Questi non fanno una minchia tutto il giorno, fanno quello di professione. È venuto il vecchio, i miei vicini di casa hanno visto un vecchio che è venuto a fare le prenotazioni nel posto dove abito io, a segnare le case. Poi sono venuti tre sere dopo, si sono fatti tutta la vallata dove abito io. Noi abbiamo dovuto fare un gruppo, ci contattiamo telefonicamente tra vicini, quando passa qualcuno che non conosciamo ci avvertiamo, cioè vivere nel terrore. Ma perché non ti prendi un'arma? Perché in Italia è complicato, no? non voglio prendere l'arma, io ho fatto l'obiezione di coscienza. Vabbè, amico mio, vuoi sparare con la fiamma? Hai detto prima, sono neonazista, non vuoi pigliare l'arma. Decidi. Sono neonazista, mio nonno l'hanno scaricato. Vabbè, ciao Marco, allora ho letto oggi una cosa, se mi accampo magari con i familiari e i conoscenti in qualche giardino pubblico, in uno spiazzo non altrimenti occupato, se vado a viverci e cucino i miei pasti o conduco lì la mia vita, più prima che dopo arrivano le forze dell'ordine e mi sloggiano. Cioè io, persona normale, cioè io, Giuseppe Cruciani, David Parenzo, se ci riprovo, queste devono scegliere se portarmi al manicomio o in galera. Se invece lo fanno certi personaggi, in particolare i Rom, è tutto diverso. C'è il diritto di rimanere lì, magari chiedono l'allacciamento con l'acqua, si fottono la luce. Questo accade, questo è il problema. Se io vado lì e occupo la cosa in nome del fatto che sono Giuseppe Cruciani, mi portano o in manicomio o in galera. Se ci vanno quelli, chiedono l'allacciamento dell'acqua e ti fottono la luce per il nome del fatto che sono Rom. Questo è il punto. Che mondo sarebbe senza la zanzara? JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aruba, soluzioni cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. La Zanzara. Un padre insegna alla figlia a sparare con un fucile d'assalto AR-15. This is gonna be harder than your 22, okay? Okay. Now, get your cheek up there. Can you see through the rear peep sight? Yeah, I can. Okay. All right, safety's coming off. You're hot. Vai. Finger off the trigger. How did that feel? Pretty good. Excellent. Okay, let's see it again. Good trigger discipline. Excellent. Capito, David? Inquietante, guarda, inquietante. Veramente. Stupendo, stupendo, meraviglioso. Dovete andare a vedere, sia House of Guns, si chiama House of Guns. Baby Gun. Molto bene. Com'è andata? Le chiede. Molto bene, risponde la piccola. Very good. Whenever you're ready. Pronta? Give us one more. Un altro ancora. Okay, finger off. Now I think you got one more shot, yeah, okay? Make it count. One more shot. Excellent. Okay. Okay, we're totally clear. What'd you think? That was pretty good. First time you've ever shot an AR-15, isn't it? Che spettacolo! Nei regimi insegnano a sparare i bambini. Nei regimi. Ma perché? Scusa, non ho capito. Qual è il problema? Qual è? Io se potessi farlo lo farei subito. Sbagli, nei regimi, tu sappi che ad oggi nei regimi si vedono anche dei filmati. Ma che cosa c'entra questo qua? Ma cosa c'entra? Cioè, è consentito, mica fuori legge. Ai bambini non si insegna a sparare. Anche, perché no? Perché no? Medioevo, scusa, a casa tua, in una delle tue case, cioè Israele, insegnano a sparare? Sì. Non ai sì, bambini. Sì, beh, non che ne sai, cioè vedremo qual è il limite, vedremo qual è il limite. Ci sarà 13 anni, ci sarà 13 anni, 14 anni. A Gaza insegnano a sparare i bambini. Poi adesso vediamo. Insegnano la democrazia, l'amore, sì, vabbè. E poi vanno a fare il servizio militare a 18 anni e lì insegnano. Vabbè. Ma i bambini non insegnano. Non lo so. Quando cominciano. Te lo dico io. Nei kibbutz non lo so com'è la situazione, dai. Nei kibbutz tua sorella. Michele da Roma. Vediamo, sì, come no. Ma sarebbe giusto, naturalmente. Michele da Roma, vai. Sì, pronto, Cruciani. Ciao Lorenzo, ciao a tutti. Sentite, ciao, miserabile. Quanto gli stanno rompendo i coglioni allo Cicero. Beh, sì, abbastanza. Vabbè, Però devo dire la verità. I giornalisti vanno là a chiedere delle cose. Adesso questo non è che può sbroccare. Finché non faceva l'assessore, c'erano solo i giornalisti sportivi che lo cercavano, oppure quelli dei giardini. Vuole fare l'assessore a Roma e giustamente i giornalisti gli rompono i coglioni. Non è che uno può scendere dal pelo. Ancora lo deve fare, già gli rompono i coglioni. Vabbè, amico mio, scusa, però adesso non puoi pretendere. E poi il 90% dei romani sugli zingari la pensa come lo Cicero. Ma io è quello che ho detto ieri. C'è rimasto qualcuno che abita a Prati tipo Parenzo, che un giorno te becco, Parenzo, te pio il caffè, te lo butto dalla camicia bianca inamidata, a vendetta di tutti gli ascoltatori che hai umiliato, un innocente caffè addosso alla tua così, camicia. Così mi ripaghi la tintoria nuova, poi. Tra l'altro ti saluta la signora che ti puliva le camicie, lo sai? Dice ma chi? Che la cinese? La cinese, chi? No, è no, quella in via Nomentana, è quella vicino bravo, a via Nomentana, esatto, te ti lo cerca. Dico io. E mi dice, ma dove è finito Parenzo? Sì, bravo, salutami la nonnina, perché lei è molto gentile e dolce. Te la saluto domani, te la saluto. Perché lei, io abitavo a Porta Pia una volta, e lì dietro c'era una straordinaria tintora, una signora. Vabbè ragazzi, però non ce ne frega un cazzo. Michele, capito, cosa volevi dire? Scusa. Ho detto questo imbecille, cosa devo ma fare? Ma che imbecille, allora, scusa, imbecille? Perché? Idiota, ma ha detto di saluta la tintora, cosa devo fare? Allora, per quanto riguarda le protezioni da frocetti, c'ha ragione, è così, è vero, non sarà bianco. Beh, hai giocato a rugby o no? Noi gli volevamo bene, mi sono rotto due costole giocando a rugby, lascia perdere, no? La tragedia. Vabbè, comunque, tu stai dicendo Zingari di merda, la pensa il 90% dei romani la pensa come lui. Sì, ma è quello che ho detto io ieri. 91-92, insomma. No, ma sì, ma è così, è quello che ho detto ieri. Abbiamo avuto, Cruciani, ci abbiamo avuto a Roma, veramente il mercimonio vero sugli Zingari. Abbiamo avuto assessori che si rubavano pure le sedie. E già rompono i coglioni a questo che non ha fatto nulla. No, ha semplicemente detto. Ci dovrebbe nominarlo per far vedere che lei è totalmente impermeabile a certe rotture di coglioni. Sì, solo che alla fine. Io non l'ho votata la Raggi, eh? No, ma alla fine non lo farà, vedrai, perché tra questa storia della telecamera, i Zingari di merda e i Frocetti, alla fine non lo farà. Secondo me, se la Raggi non fa assessore lo Cicero, si caga sotto al primo. Com'era quel film? Famo il pocherino e con Duganci te caghi sotto, no? Sì, sì, e può essere, hai ragione, ma ti do ragione su questo. Cioè, se è impermeabile a tutte queste minchiate che escono fuori, cioè le frasette, le telecamere che vanno lì e questo dice che l'hanno aggredito, eccetera, eccetera. E se è impermeabile a tutto questo, se ne fotte, lo fa assessore. Se invece si fa condizionare dai Zingari di merda che è scappato in un'intervista in un fuori onda, dai Frocetti che ha detto in una biografia 10 anni fa e dalla telecamera della 7 che va lì e lui non vuole fare l'intervista, poi magari se l'ha aggredito è un altro discorso, però Michele, se quello ha preso a calci la telecamera, quello sarà un problema o no? Ma quello è un rugbista, c'è un codice d'onore, secondo me al massimo ha dato una spinta alla telecamera, secondo me. Vabbè, ho capito, però Parenzo, amico mio, non è che Parenzo, è un po' che a Viale Parioli non ti vediamo, come mai passeggi per Torbella Monaca? No, io a Viale Parioli non sono quasi mai venuto. È un po' che non ti vediamo, come mai? Ma perché a Viale Parioli passeggiavi? L'anno scorso ti vedevamo sempre, bello, forse, vestito. Forse ti confondi con l'amante di tua moglie, che quando passa da là, forse. Va bene, ciao Michele, ciao. Ciao, ciao a tutti, viva Torbella Monaca, ciao. Ciao. Carlo Roma. Ciao Cruciato, sono Carlo di ieri sera, ho fatto uno scoop ieri sera con quel numero di telefono, fino a stanotte mi hanno telefonato, però ti posso dire... No vabbè Carlo, adesso ancora. Questo è niente di quello che succederà. Su 10 telefonate, sta zitto, te imbecille, su 10 telefonate, questo è nulla. Su 10 telefonate, 8 sono state buone, 2 minacciatori, hai capito? Erano spiegati che nessuna minacciavano, vedrai. Ma non c'hanno le palle. Ma no, che ti dicevano? Che ti dicevano, scusa? Niente, fascista, razzista, capito? Se ti prendiamo, io ho detto io sto a Roma, capito? Però guarda che ti se prenderà muori, la polizia, non nessun altro, guarda. Sta zitto, imbecille, parte coglioni, mettete via la polizia, continua, stupido. Ma dai di nuovo, Zitto, Carlo, stai tranquillo. Continua. Stai tranquillo, dai di nuovo il tuo numero di telefono. La gente lo può insultare, oppure registrate le telefonate. Ma hanno insultato, mi hanno chiamato, però su 10 telefonate 8 erano a favore. 8 buoni, 8 sì. Beh, tutti complimenti perché hai detto che bisogna bruciare Zingari e Debrè. Complimenti perché non so, ho trattato male Parenzo, ho avuto le palle a dare il numero, non mi preoccupo di Parenzo perché tanto non è che mi devo preoccupare. No, di me no, della giustizia italiana. Vabbè Carlo, ripeti un po'. Ho detto la mia, brucierei gli Zingari. Brucierei gli ebrei, i neri no. Ma non è dire la tua, ma non è che uno dice ho detto la mia. Io faccio quello che... Ma perché? Vabbè, d'accordo, però. Ma tu gliela potuto dire stasera a quel marocchino là, ma glielo metti al culo a tua moglie. Tu gliela potuto dire, io posso dire. Ma tu puoi dire quello, che vuoi, poi ti assumi la responsabilità. Allora, dai di nuovo il tuo numero di telefono. 344 296 1830. Allora, 344 l'ha cambiato l'informatico. No, è lo stesso, è lo stesso. Poi c'è la regia, dice, sta zitto, ma perché lo fa parlare quel pezzo, ragazzo? Sai che ce l'ha, già, il tuo numero. Sta zitto, che fa il numero, ce l'ha, già la procura di Roma. Ma che te ce mettessero? A proposito, devi dire in diretta da non chiamare subito, se già stanno a chiamare, Allora, 3443... Sì, ma registrate queste telefonate con Carlo, 344... 344-296-1830. Ok, ciao Carlo, già ciao. Già stanno a chiamare, no? Per forza che stanno a chiamare, posso... ciao. Eccoci qui, Davide Milano, vai Davide. Ciao Giuseppe. Dimmi. Commento veloce, secondo me sulla storia dei bambini e le armi hai detto una cazzata sesquipedale. Io ho fatto sentire l'audio di un filmato che potete tranquillamente vedere su YouTube. L'avevo già visto sulla rete, su Facebook, quello che è di un padre che insegna ad una bambina, credo che abbia 10 anni, e credo che sia vietato anche negli Stati Uniti, peraltro. Ma no, non credo che sia vietato, sì. Ma non lo so in che stato è, magari si può fare un'esercitazione, credo, perché altrimenti non l'avrebbero messo così facilmente su. Ma tu ti rendi conto che quello che hai detto, io capisco, no? Scusate, ma qual è il problema? Non ho detto che vorrei consegnare un'arma, è diverso. Ho detto una piccola esercitazione ogni mese per sparare con una pistola, eccetera, eccetera. Sarà una cazzata. Ma che vuoi? Ma se ci fossero le leggi per farlo, lo farei. Ma qual è il problema? Non ho capito. Perché scusa, nessun paese si può insegnare a sparare ai bambini? Io dico una cosa sola. Io non capisco se tu non dai un'arma in mano a un bambino. Ma spiegare a un bambino come si spara, se questo trova l'arma per gioco, per sbaglio. Ma no, quello non lo deve trovare, che c'entra? Quello non lo deve trovare. Ma è rischiatissimo. Vabbè, ma ho capito, ma amico mio, tanto se la vuole trovare, la trova lo stesso. Tu insegni invece. Un bambino di 10 anni. No, tu insegni al bambino l'uso di un'arma che si può fare, una cosa un po' diversa. Ma perché allora non insegnare a un bambino a bere whisky? Perché non insegnare a un bambino di 10 anni a farsi una canna? Ma cosa c'entra? Sono due cose diverse. Vabbè, ma ragazzi, ma scusa, perché ho detto una minchiata? Io ho detto quello che penso, quello che farei se fosse possibile farlo. Domanda, perché non insegnare a un bambino di 10 anni a farsi una canna? Ma che c'è una differenza abissale, non c'entra assolutamente nulla, sono due cose molto diverse. Quello influisce sul suo corpo direttamente, farsi una canna, dai, su, non fare lo stupido. Avere la possibilità di trovare, anche solo per sbaglio, una pistola. Ma come fai a trovare una pistola per sbaglio? Giovanni, leggi come leggo io. Non è la prima volta che un bambino trova un'arma e per gioco spara la mamma. Paradossalmente, quello che dici tu, porta al mio ragionamento, a quello che dico io. Cioè, tu dici, se trova un bambino di 10 anni, se uno per caso, come dici tu, se uno per caso trova una pistola, cosa improbabile per casa, così lasciata così, forse è meglio se la sa usare. Ma tu stai presupponendo il fatto che lui a 10 anni sappia che se spara un bambino non è un gioco, ma l'arma è vera. Perché questo è il principio di fondo. Senti, io ho visto questo video, penso che se la cosa è, come dire, legale, io, mia figlia, in una a scuola di tiro, di fucile, di pistola... A Gaza glielo puoi far fare. Guarda, che lo fanno pure, mi hanno scritto un sacco di gente che lo fanno pure in Israele, non fare tanto il... Ma come non no? Non insegnano ai bambini a sparare. Ma lascia perdere. Ai bambini non insegnano a sparare. Ciao. Say Eccoci qua, Maurizio Gasparri con noi. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti. Come andiamo? Buonasera. Come andiamo? Come andiamo? Bene, ma che c'è? Il cane là dietro? C'è un cane che abbaia. Ma hai un cane? Ho due cani io. So. Due cani? Border collie, due border collie. Ma sei più animalista degli animalisti? Cioè, sì, sei più... Io me ne occupo un po', ma sono affidati soprattutto alle cure di mia moglie e di mia figlia. Una cosa, ma tu lo sapevi che Gasparri c'aveva due cani? Due cani, due border collie, molto bravi. Vedi, tutte le persone hanno qualcosa di positivo alla fine. E uso il sacchetto, perché D'Alema è stato pedinato. Esatto. E peccato che non usava il sacchetto. Mi accompagna più mia moglie e mia figlia. Però se mi capita, quando qualche volta capito dare a spasso col cane, ho sempre il sacchetto per evitare che il Corriere della Sera di Maria Teresa Meli possa criticarmi. Ma perché come della Meli? D'Alema. Perché la Meli ha detto in televisione, è una del Corriere, che D'Alema sta ai giardinetti senza il sacchetto. È vero, è vero. Ora il povero D'Alema, hanno pedinato pure il cane di D'Alema, ma era D'Alema quando era comunista che doveva pedinare i cani, non questi che non sono comunisti, che pedinano i cani dei comunisti. È cioè, ma tu sei molto critico nei confronti della signora Meli di quella sera, che ovviamente non conosce nessuno. Conosco, è anche simpatica. Perché è diventata un'ultra renziana, diciamo la verità. È diventata un'ultra renziana. Si fa sì, la Meli è brava, una abile professionista, però insomma esagera, francamente. Perché è diventata proprio una tifosa di Renzi. Cioè proprio... dai, non si può attaccare a D'Alema, ci sono mille argomenti per attaccarlo. Non il cane, attaccarlo dice. Se non usa il sacchetto del cane fa male. Dice anche che ha detto anche che i romani sono incivili, la Meli recentemente, mentre i milanesi no. Cioè, questo ha detto. Cioè... Questo è vero. Però. Beh, sì, poi sai, lei però è romana, quindi è un romano lo può anche dire per paradosso. Se lo dicesse un milanese ci offenderemmo. Noi romani possiamo pure ammettere qualche difetto. Senti, David, ma finalmente, almeno dal mio punto di vista, Gasparri adesso, per carità, attaccherà sprombattuto. C'è un giudice a Berlino, questo giudice meraviglioso, non mi ricordo, che ha consentito l'adozione da parte di due lesbiche. In base alle leggi esistenti, però. Beh, meraviglioso, io lo trovo una cosa. In base alle leggi esistenti, però. Ha detto. Su questo, però, Parenzo, noi abbiamo attivato una discussione seria. Ma voi avete denunciato il giudice, addirittura? No, abbiamo chiesto alla Cassazione, io, Giovanardi, Quagliarello e La Roccella, che insomma questo tema fosse affrontato in maniera Volete denunciare il giudice? No, poi le aggiungo, la Cassazione ci ha risposto, perché c'è un carteggio in corso, allora? Che avrebbero deciso le sezioni unite, cioè una questione importante. Invece la prima sezione ha una presidente, la quale partecipa a manifestazioni di associazioni LGBT. Ma che c'entra? Manifesta la sua opinione. Se uno è giudice, no, allora, primo la Cassazione decide che si deve andare a sezioni unite, la prima sezione l'autonomia decide. E la presidente è una persona che ha manifestato fuori dalle sedi giudiziarie una posizione schierata. Il giudice che delibera questioni tanto delicate, che le deve decidere, non deve manifestare la sua opinione. Scusi, ma c'entra col come merito che c'entra? Di vorrei vedere se lei si farebbe giudicare da uno che dice quelli che lavorano alla radio fanno tutti schifo, poi li trova davanti come giudice, non va bene. Quindi ma scusami, noi contestiamo, è una legge, ma non c'entra. Vabbè, ma comunque al di là di questo, io voglio capire lei una cosa. Usato la legge del ragazzi, non andiamo sulle cose giuridiche. Lei ha violato un deliberato, una decisione della Cassazione che decide la sezione. Ragazzi, quindi, però la questione è molto seria. Non entriamo nelle cose giuridiche. Stiamo decidendo se si possono comprare o vendere bambini nel nostro paese. No, ma che c'entra questo? Come c'entra? Perché poi questi bambini che arrivano in questo modo, l'interesse del minore, diciamola così, ha valutato l'interesse del minore. No, l'interesse del minore è di non essere al centro di manipolazioni, di compravendite e di egoismi. Questo è l'interesse. Ma non ho capito perché un bambino non può stare in mezzo a due lesbiche, Mauri. Un bambino non può essere oggetto di un commercio. Lei, io, Parenzo, siamo nati perché un uomo e una donna ci hanno generato. Così si nasce. Non è un fatto religioso. Ho capito, ma due lesbiche non possono crescere. No, non possono generare una vita perché non è nella natura. Ho capito. Delle cose. E infatti questo bambino è stato generato da un uomo che poi non so da che. Che è un uomo che è stato pagato. Come funziona questa cosa? È un uomo che poi non c'è più adesso. A parte che non va bene nemmeno con due lesbiche, due omosessuali di sesso femminile. Ma se lei è Parenzo, mettesse insieme, non siete in grado, non avete un utero per mettere un bambino, lo comprereste da qualcuno, fatto tanti, come ha fatto anche. Scusami, facciamo un esempio. Io e Cruciani siamo. No, facciamo un esempio con Gasparri. Gasparri, prendiamo... quanti figli hai, Maurizio? Quanti figli hai? Una figlia, benissimo. Allora, tua moglie succede, che ne so, sparisce improvvisamente, per carità, non ce la curiamo, facciamo un esempio così. Scappa. Tu ti metti con un uomo. Beh, questo diventi gay. diventi gay. È che oh, può succedere nella vita, no? Cioè, anche che uno... questo potrebbe essere più normale. Guardi, di quello i casi che lei sta facendo, ecco, diventi sono gay. Diversi, no. Perché si possono circoscrivere a bambini esistenti. Il problema è, in particolare, invece, le faccio il caso di Vendola, questo bambino di Vendola, allora viene impiantato nell'utero di una donna, e poi ci sono due donne coinvolte. Ma Vendola può tornare in Italia? Può tornare in Italia? Ma può fare come vuole, ma ha violato una legge italiana. E allora? Dopodiché deve anche ammesso di avere pagato dei soldi, sì, perché certo, la signora si è assentata dal lavoro, perché ha avuto delle spese, sì, perché ha avuto dei costi. Sì. Quindi, secondo me, un caso come questo, che è ancora più eclatante, non solo viola la legge 40 italiana. Ma che deve fare? Deve essere arrestato appena arriva in Italia? È una cosa non accettabile. Ma deve essere arrestato o no? Ma è una guardia, si deve fare una legge che impedisca l'utero in affitto. Vabbè, d'accordo, ma deve essere arrestato quando arriva in Italia o no? Guardi, non è che non lo risolviamo con una battuta. Non bisogna comprare i bambini. Chi compra i bambini fa schifo. Questo bambino, quanto entra in Italia, che fa? Cioè, che... essere affidato a gente che non compra bambini, questa è la verità. Affidato ad altre persone. Dovrebbe essere affidato a persone che non si mettono a comprare e a vendere i bambini. Cioè Vendola è uno, fa schifo quando fa quello. Vendola ha fatto una cosa che ha spiegato in un'intervista, ha dato dei soldi. Dopodiché c'è anche un altro aspetto, la eugenetica, perché tu poi scegli la persona che deve mettere embrioni, poi quella che deve avere l'utero, quindi si va a fare anche una scelta. Ho capito, eugenetica. Ma se quella arriva in Italia è col bambino, pratica, se arriva in Italia col bambino. Un bambino dovrebbe essere affidato da gente che non fa, cioè, dovrebbero arrivare i carabinieri, prendere sto bambino e affidarlo a... Ma guardi, non lo so cosa dovrebbe accadere, dovremmo fare una legge per impedire, per la... Allora, la legge 40 già vieta queste pratiche. Dopodiché, uno va in America, in Canada le fa. Ho capito, e quindi è una cosa, però su una cittadina italiana dovrebbe rispettare le leggi italiane. Dunque ci vuole una denuncia, perché non denunciate Vendola? Perché non denunciate? Ma guardi, questo io non lo escludo, questo sarà un problema. Noi stiamo chiedendo intanto alla Cassazione. Ma perché non Maurizio, perché non denunci Vendola? Denuncia Vendola. Guarda, lo valuterò, il tema è molto più serio. Noi dobbiamo denunciare tutti coloro che vogliono lasciare l'Italia in uno stato di confusione, per cui una giudice militante LGTB decide con l'orientamento della Cassazione di affidare un bambino a due lesbiche in maniera illegale. E illegale illegale è nulla. E poi voglio anche dire l'NCD, è la legge che... del 93. Vabbè, ragazzi. Dopodiché l'NCD, faccio anche ma chi se ne frega dell'NCD? Lui avevano detto la nuova legge non consentirà queste cose. Ma ragazzi, ma chi se ne frega dell'NCD? Noi avevamo detto, io, Guagliarello e altri, guardate che ci arriveranno a colpi di sentenze e ci stanno arrivando. E beh, certo. Ma non va bene, se lei vuole vivere in un mondo in cui i bambini si comprano e si vendono, vada a vivere. Ma ci sono pochi casi, dai, ma che realtà tribale? Mo adesso Vendola, che cos'è? Un primitivo? Vendola, che cos'è? Vendola ha dato dei soldi a una persona perché generasse un bambino nel suo utero con un embrione preso da un'altra donna ancora, eccetera, eccetera. Allora, dopo questo, fammi dire solo è un orrore questo, è un orrore o no? È un orrore, perché comprare e vendere i bambini è un orrore. Fermo un attimo, fermi! Quel bambino l'ha venduto. Fermi là. Voglio rinascere, Cruciani. La zanzara. Allora, siamo con Maurizio Gasparri. Caro Parenzo, io invece sono a favore dell'eugenetica in tutte le sue forme possibili e immaginabili, della scienza che può produrre anche bambini, perché no? Però ma perché dice queste cose? A me mi piace. Io sono a favore di tutti gli antinori possibili e immaginabili. Antinori forever. Beh, ma no, ma adesso non alla costruzione proprio dei bambini, però al fatto è aberrante. Però vi segnalo che il Movimento 5 Stelle è diventato all'improvviso europeista. Cioè, sul blog di Grillo è apparso un decalogo in cui c'è scritto il Movimento 5 Stelle, che è stato sempre fieramente contro addirittura l'euro, no? Volevano fare un referendum fuori dall'euro, la prigione, eccetera, eccetera. Il Movimento 5 Stelle è in Europa e non ha nessuna intenzione di abbandonarlo. Fino a un mese fa chiedeva addirittura in Italia un referendum tipo quello inglese. Ma lei oggi in Inghilterra che cosa potrebbe? Uscire o restare? No, avrei votato perché si rimanesse in Europa. Sa perché l'Europa è ridotta male, però sfasciarla... Non ci farebbe stare meglio. Io pensavo al contrario. Un miliardo e mezzo di cinesi, 1,1 miliardi di indiani, la concorrenza di piattaforme continentali enorme. È chiaro che se l'Europa non cambia regole, non si fa piacere dai cittadini. Però pensavo che avessi, avresti votato per l'uscita. No, guarda, nonostante la sgradevolezza delle attuali istituzioni europee e le regole assurde, i divieti a qualsiasi cosa, l'Europa attuale finirà male perché ha delle regole assurde. Quindi o cambia regole oppure si sfascia. Senti, quando si sfascerà saremo tutti più piccoli e più deboli in un mondo globale dove ci sono aziende cinesi, investitori indiani. Senti, ma lo sai, Maurizio, che già comprati il Milan, l'Inter e la Pirelli, gli americani a Roma, purtroppo era meglio forse i cinesi, visto Pallotta. Comunque il neo assessore a Roma, neo insomma quello che sarà l'assessore allo sport, sembra quasi un assessore vostro, ha non detto, lo conosco, quello che partecipa al rugby, ha detto Frocetti, ha utilizzato la parola Frocetti per dire che quelli del rugby si proteggono troppo. Ha detto Zingari di merda perché gli è passato vicino una macchina. Ma io non lo so, nel mio partito in Forziana non si dice Frocetti e Zingari di merda. No, ma per dire, cioè, sarebbe perfetto per una... Senti, per Forza Nuova, non so che... Ma no, vabbè, ma figure, ma queste sono parole che magari tutti abbiamo un po' utilizzato. Ma se diventa grillino ci avrà la sanatoria. Ma questo può essere. Ieri siamo passati sotto la porta... Santa, tutti quanti noi politici. Pensate, ancora fate ste cose. Boschi, alla Raggi, siamo passati. Ma si sono date la mano alla fine, la Raggi e la Boschi? Sì, perché ho visto le foto. Ho visto che però c'era una sedia vuota nella prima fila. La Boschi gli ha detto alla Raggi di scalare di un posto e lei è rimasta al posto assegnato, lasciando una sedia vuota tra lei stessa, la Raggi e la Boschi. Questo l'ho visto perché ero seduto alla sedia poi ancora accanto alla prima. Senti, ma hai visto la Rai che arriva e torna Lerner? Guarda, Lerner era finito su un videocitofono perché era passato dalla Rai alla 7. Sì. Non lo vedeva più nessuno. E l'hanno tolto pure dalla 7 ed era finito sulla F. Sì. Tu direi cos'è la F? Tu lo sai che siamo speciali. Sì, lo so. La F, come la TV della Feltrinelli. Ora, qualcuno mi telefoni, se chi è che vede la televisione Feltrinelli? Nessuno. Io la vedo ogni tanto. Vabbè, tu sei malato. Adesso è un caso malato. Quindi è un videocitofono, l'hanno strappato, e sai perché l'hanno chiamato? Perché la Bignardi, tutta la lobby degli amici, no? E quindi lotta continua, Lerner, lotta continua, soffri ma che c'entra? Ma che c'entra, amichetti degli amichetti? Perché Lerner e Bignardi erano precipitati a un livello di audience che perfino la 7, Cairo è generosissimo, tiene in video tutti, pure Parenzo, tutti quanti, l'ha dovuti togliere perché hanno fatto meno ascolti di Parenzo, sia Lerner che questo Bignardi. È vero, questo è vero. Questo è vero. Adesso è fortissimo, è in ascesa. E quindi, quindi la Bignardi che era stata cacciata dalla sette. Lerner farà un programma straordinario sull'Islam. Islam Italia, che se prende Parenzo lo fucila il programma. E dico, guardi, questa una volta faceva Milan Italia, adesso Islam Italia. Sì, sull'integrazione, queste cose. Comunque il problema vero che era stato trombato dalla sette per mancanza di. Ma che c'entra questo video citofono? E si sostengono a vicenda. Quindi fanno il canale dei trombati per mancanza. Quindi io difendo allora Parenzo, però Parenzo che fa gli ascolti dei Bignardi deve fare il direttore del TG unico, tutti i TG Parenzo e parla solo lui. Ma tu dici che c'è la questione politica delle cose, tu dici che c'è la questione la lobby di lotta continua che non si è mai sciolta. Non si è mai sciolta, cioè la lobby di lotta continua che vive e lotta insieme a noi, vive e lotta insieme a loro con i soldi nostri, dici tu. Però poi ma adesso gli compreremo un video telefono, così si telefonano e si parlano tra di loro. Senti, tanto il numero degli spettatori era analogo. Senti, ma ti vorrei regalare la biografia di Fedez che è uscita. È da poco uscita. Ma questa vabbè, ho capito. Ma insomma, io ho qui la biografia di Garibaldi, di Cavour, varie biografie di Cavour, la vita di Marinetti. Dai, comprala, fatela regalare. Domanda e risposta. Quella o il Mein Kampf di Sallusti? No, meglio il Mein Kampf. Meglio il Mein Kampf. Sono appassionato del Mein Kampf. L'eugenetica piaceva adesso a Cruciani, a Cruciani. No, né Mein Kampf né quest'altro qua, ma c'è la biografia di chi? Di Fedez, domande e risposte dei fan, eccetera. Non te la compreresti mai? No, spero che ne venda abbastanza perché c'è la causa in corso e deve dare 500.000 euro. Vabbè, quello adesso lo deciderà il giudice se ti deve dare 500.000 euro. Ci accontenteremo anche di 400.000. Vabbè, ciao Mari, ciao. Of the sun. Allora ragazzi, dove andiamo? Ugo Taranto. Ugo. Ugo, vai, dimmi Ugo. Pronto? No, dimmi. Volevo fare delle considerazioni sull'intervento della Ferilli, ne avete parlato ieri. Ma Ferilli, sì, ieri, dimmi. No, volevo dire, premetto che non mi sta simpatica né lei, la Parietti, questi milionari che vanno a, che si sciacquano la bocca dicendo di essere di sinistra. A parte questo, uno si sposa con l'amministratore delegato, con l'altro con il finanziere, vai in televisione con 100.000 euro di gioielli, la Parietti, con sta botta del padre. Detto questo, però, io voglio dire che c'entra questo, non si capisce cosa c'entra. No, nel senso, non si capisce perché... che non mi sono simpatici, non... perché adesso devo difendere la Ferilli. Non è un però non è un argomento il fatto che uno ha avuto successo, come il caso della Ferilli, che ha fatto l'attrice di successo e quindi No, non ho detto, ma non hai sentito? Non ho detto questo? No, hai detto una stupidaggine, perché hai detto No, dimmi cosa ho detto, ripeti. Ripeti cosa ho detto. Ha detto gli sta sulle non gli sta simpatica. No, ripetere a quell'intelligentone, cosa ho detto? Ripeti. Scusa un attimo, perché secondo hai me... Hai visto, te l'hai sentito? Hai visto? Hai troppo vomito nella testa. Allora, no, nessuno... Ehi, ripeti quello che ho detto. Come hai detto che non cosa? Ti sta simpatica la Ferilli e la Parietti? Perché? Perché sono due miliardarie con i gioielli. Esatto. Certo, perché essere di sinistra è una cosa seria. Io ma non sono all'altezza di esserlo. Quanto hanno guadagnato? Ma che certo, che Ferilli, certo, perché non devi dire di essere di sinistra. Lo devi mettere in pratica. Ma cosa c'entra? Lo devi mettere in pratica, non lo sbaglierà. Devi alzarti la mattina e andare a occuparti degli affari sociali per essere di sinistra. Mi fai parlare? Ti sto dicendo che io ho molto rispetto per quelli. No, sei tu che dici le cose. Non stai sentendo quello che sto dicendo io. Essere di sinistra è una cosa seria. Io non sono all'altezza perché dovrei fregarmene della Porsche, fregarmene dei vestiti e impegnarmi negli affari sociali per il bene della gente. Questo è essere di sinistra. Capito? Ma chi te l'ha detto a te? Ah no, cosa devi fare? No, allora è sinistra, che significa? Votare sinistra perché mio padre era partigiano? Ma questo vedi, significa essere di sinistra. Che sei stupido, perché stai dicendo che uno di destra non può fare il volontariato o cose sociali. Ma chi bravo, sto dicendo proprio quello. Scemo. Ma no, ma quello ma di sinistra deve essere impegnato solo in quello. Vabbè. Ma allora, vabbè, Ugo, vai. Le persone vere di sinistra, le persone vere sono poche, quelle vere. È una forma mentis molto nobile, ma devi essere coerente con te stesso per essere l'idiota. No, sì, l'idiota perché ti conviene, pare, perché pure a te sei salito sul carro della sinistra e intanto vuoi guadagnare milioni alla sette a dire stupidaggini. Poi quando c'hai alle mani di fronte ti cacchi sotto e non gli dici niente. Avevi il responsabile davanti alla distruzione. Sì, quello che guadagni. Avevi responsabile davanti. Ragazzi, alle mani state calmi. E gli hai leccato il culo. Soltanto hai leccato il culo, fatti rivedere la trasmissione, dovevi distruggerlo. Ragazzi, volete stare calmi un attimo. Comunque, allora, detto questo che non mi sta simpatica, perché poi sposa l'amministratore delegato. Ma sciacquati la faccia. Io voglio dire, ma pare, stai zitto, vai a rivederti la trasmissione, fatti a rivederti le tue trasmissioni quando hai forti davanti. Fatti a rivedere le trasmissioni quando vi hai le mani, gli hai leccato il culo. Faccia. Dovevi distruggere, l'hai fatto, gli hai dato il compito al comico che era lì e invece gli hai leccato Vabbè, il culo. Vabbè ragazzi, dai, dovevi forza. Dovevi distruggerlo. C'è modo e modo. Come al solito. Non è che doveva, ognuno fa, come dire. Oh, ma dici di essere giornalista, oh. Vabbè, ma che c'entra? Non è che uno deve distruggere. E tutta la trasmissione quando ha quello da ammazzare, distruggerlo, gli leccano il culo. Va bene, Ugo, vai. Allora, detto questo, però a questo punto dico, il fatto che abbia invitato la Ferilli come personaggio noto, qual è il problema? Scusa, dovevi invitare te? No, ma tra l'altro è l'unica volta in cui ha detto le cose sagge. Il punto non è quello. Quello anzitutto ha detto è quello sagge, cosa? Allora, ha detto che è Ugo, innanzitutto è Mughini che ha protestato sulla presenza della Ferilli. Sì, io ho detto un'altra cosa. Ho detto semplicemente che l'antirenzismo della Ferilli, l'antirenzismo della Ferilli mi sembra ridicolo. Mi sembra perché si poggia su argomentazioni che per me sono finte. Che è rimasto deluso è finta? No, uno è rimasto deluso in virtù di che cosa è rimasto deluso? Ma scusa, tutte le promesse, perché se ti piace come governare, io pure uno che credo. No, ma ho capito, ma uno dice sono rimasto deluso da 1, 2, 3, 4, 5 e non ha detto un cazzo. No, non è vero, ha detto non ha messo, dopo oltre 80 euro, non ha messo le mani proprio negli affari principali, cioè nell'economia, nelle periferie, negli affari della corruzione, della periferia di Roma. Ma alla periferia di Roma, che c'entra? Che c'entra Renzi con la periferia di Roma? Scusa. No, beh, la sinistra, la congenerale con la sinistra. No, beh, vedi, no? Che siamo vaghi. Il punto fondamentale è un altro. Ha detto a un certo punto ha più cariche dello zar di Russia, che è una cazzata pazzesca, una minchiata colossale. Insomma, l'arroganza ce l'ha. Io sono rimasto deluso. Ma ragazzi, l'arroganza qui, quando qualcuno prende il potere. Un ministro che è figlio di un truffatore che ha mandato sull'asco un misco Boschi e nessuno dice niente. Solo in Italia, veramente nessuno dice niente, non è vero, perché ci sono stati mesi in cui ma che vuol dire figlio di uno ma ho capito, la Boschi è figlia di... ma mica la voglio arrestare io, la Boschi è figlia di uno che è sotto indagine, no, truffatore, ancora non c'è nessuna sentenza, ma che altro, certo, ma figura se va in galera, i facci guardano bene, però Ugo, scusa, io ho una domanda per Ugo, però però non mi dire che sono scemo, perché poi mi incazzo, non voglio, per carità, voglio sapere con calma solo questo: quando tu ti lavi la faccia usi quello per il sapone per l'igiene intima, vedi, no? Questo è l'intrigentone, vedi come sei un idiota. Sì, perché sono io? Perché Renzi invece si sta governando bene, perché la pensa diversamente. Bravo, infatti, tu basta che sali sul carro del PD, perché ti conviene. Certo, che cosa te ne frega? Scusa, il primo che l'ho attaccato in tutte queste ultime settimane. Sì, infatti, certo, perché sei amico di D'Alema, certo, l'altro truffatore. D'Alema mi piace, sì. Bravo, infatti, quello che ha distrutto il PD, il primo a fondare il comitato di affari. Bravo, D'Alema, è lui che ha iniziato, e tu non puoi permettermi di darmi quella faccia, perché sei tu il primo ipocrita, perché quindi se sei un talemiano, D'Alema è stato il primo a distruggere il PD, a fare il comitato, a trasformarlo in comitato d'affari, pazzo di Cruciani, che beh, è vero. Io, il fatto che Parenzo abbia simpatia per D'Alema mi fa veramente ridere. Bravo Cruciani, finalmente. È uno che dovrebbe chiudere con la politica, tirare giù la Clare e basta. Bravo Cruciani, l'ipocrisia, bravo. È stato lui, Cruciani, a distruggere il PD. Certo, perché ogni no, ma scusami, tu mi dici che mi devo dare la faccia, imbecille, non mi ti permetti, cretino. Ma tu sei in televisione a dire cazzate, almeno io sono uno sconosciuto. Come cazzo ti permetti? Dici stronzate. Ma come ti permetti a dire la faccia, tu che sei in televisione e dici stronzate in pubblico? Ragazzi, non vedi, sei umano, uno che è d'Alemiano, che è scalito sul cavallo di D'Alema, sul carro. Ci permetti di dire a me che sono un cittadino qualunque, lascia qui la faccia. No, ma sei deficiente o no? Coglione! Sei un bidet umano. Ma come cazzo di bidet? D'Alemiano! Sei salito sul carro! Quale di un delinquente come D'Alema, che ha distrutto il PD, ha fatto il comitato d'affari. Ma come? Che stato... Allora sei anche ignorante! Ma sei anche ignorante, allora non sai che è D'Alema! Ugo, devi stare calmo però! Ma scusami, dicemi lascia qua la faccia, perché dico che... Ma scusa un attimo, ma Crucia, questa volta tra l'altro mi piace la trasmissione, perché hai iniziato sputtanando Renzi. Cioè, me la sono inventato io, l'hai detto tu stesso. Sì, ma vedi che tu però dici bravo a seconda delle cose che vanno nella tua direzione. Ma scusami, no, ti dico che sono rimasto comunque il padre della Boschi è stato multato dalla Banca d'Italia, multato, esatto. Solo questo, non è che è stato multato dalla Banca d'Italia insieme ad altri dirigenti. E poi inquisito. E poi è sotto indagine, eccetera, eccetera. Vedremo se sarà un truffatore, se è un bancarottiere, se è un figlio di puttana, se è un pezzo di merda. Ma questo è un altro discorso, cioè, bravo, è un truffatore. Esatto. D'accordo, è stato multato dalla Banca d'Italia per alcune irregolarità che ci sono state. C'è un'indagine in corso, accusato di vari reati. Ma guarda che quel che è al bidet, telefono, bidet. Non capisce bidet, non è mica un insulto bidet. Vabbè, dai, e non bidet. Puoi dire a quello che è un bidet, Ugo, dai. Ma cioè... non è un insulto, perché è una cosa utilissima il bidet, io lo stimo. Vabbè, Ugo, dai, Ugo. Vabbè, quale commentazione? L'un D'Alemiano dice bidet agli altri, capito? Ciao Ugo, che ci devo salutare, ciao. Pronto il telefono amico? Ah, è la zanzara? Vabbè, è uguale, dai. La zanzara. Cruciani, confermo che nei pressi dello stadio di Padova c'è la scritta Cruciani boia Radio 24 la tua troia, una. E Cruciani figlio di troia, niente, così è. Wir sind Kobling! Wir sind Kobling! Wir sind Kobling! Allora, tu che non sai di calcio, questo qua era il telecronista islandese ieri al gol al 92esimo del 2-1 dell'Islanda, che ha permesso all'Islanda di qualificarsi. Penso che dopo sia stato ricoverato in ospedale al 100%. Stupendo. Se non è stato, se non è stato ricoverato in ospedale, poco ci manca. Lo sai che spesso noi dovremmo avere il coraggio che ha avuto Padoin, il giocatore della Juventus, che è andato al Cagliari e ha detto non sono all'altezza di giocare nella Juventus, cioè ho qualità mediocri per giocare in questa squadra. Beh, e dovremmo avere ogni tanto il coraggio di dirlo, cioè di dire non sono all'altezza, ho delle qualità mediocri rispetto a quello che mi chiedete. Sì, può essere, certo, giusto, certo. Ecco, ad esempio, quel video umano che ha chiamato poco fa dovrebbe dire così: gli argomenti che voi trattate sono troppo alti, non sono all'altezza, perché sono uno stupido, però mi piace intervenire lo stesso. Ecco, questo poteva essere. Vabbè, ma adesso questo non c'entra un cazzo, dai. No, su. Perché quello ha detto delle minchiate. Ha detto delle minchiate, ieri, chi è la Ferini non può essere definito, delle stupide, degli stereotipi stupidi. A me mandano, io rispetto per le idee degli altri, sì, non è vero, sì. Poi mi posso accallonare, ma le stupidaggini non le sopporto, le cose idiote, gli incasellamenti così fasulli, fatti un po' così, lì per lì, uno ricco non può essere di sinistra, stupido. No, ma non è che uno non può essere di sinistra. Ma è stupido, quando... è una stupidaggine. E mi ha mandato ai matti per questo. Ma perché tu fai perché tu sei di sinistra e sei borghese abbiente, diciamo, non ricco, ma borghese abbiente. Ma non c'entra nulla, però. Ma che ti sei sentito attaccato in quanto Parenzo? No, lo reputo uno. Comunque, ragazzi, ci stanno arrivando le prime telefonate che riceve sul cellulare il fascista, razzista, nazista Carlo da Roma, che dice che vuole annunciarti che in settimana avrà la visita. Sì, però perché la devi buttare sempre con i magistrati, le cose, le denunce, no, eccetera. Io te lo posso assicurare, avrà la vita. Ma lascialo perdere, dai, no, su, mamma mia. È una cosa molto grave. Devi denunciare tutti gli ascoltatori di questa trasmissione, no, tutti, dai. Non tutti. Comunque ci stanno arrivando, ci stanno arrivando le prime telefonate. Sì. Le prime telefonate da parte della gente che ha registrato la telefonata e ci manda le cose. Sentiamo la porcellana. No, ma l'ho sentita prima, perché prima dell'interruzione. Va bene. Come sai, abbiamo tante interruzioni. Durante una delle tante interruzioni che abbiamo è arrivata una telefonata, addirittura lo ha chiamato un rom. Ottimo. Beh, stupendo. Ottimo. Senti. Bene, benissimo. Pronto? Tu sei Carlo? Io sono Carlo, e te chi sei? Io sono uno che tu dici che devo bruciare, io sono Zingaro. Sì. Il telefono chi ti ha dato a te? A chi ha rubato il telefono? Io non rubo, io. Come non rubi? Tu hai dato il numero sulla radio della Zanzara. Sì, hai dato. Sì. Vediamo se hai coraggio di ripetere a me in faccia stesse cose che hai detto. Sì. Che sì, sentiamo? Che ha detto Cici? Che ha detto che siete zingari del merda. A me è messo bene quello che ha detto Cici. Perché io mi sono presentato, tu ancora te devi presentare. Vedi che differenza che c'è fra me e te. Io sono Zingaro e tu mi hai offeso. Capito, ma non mi dici chi sei. Tu sei un nazista. Non mi rompere i coglioni. Che sei uno zingaro, che vuoi da me? Ma chi te ci ha portato? Io mi chiamo Damir. Damir. Va bene. Ecco, Carlo. Allora, tu sei un nazista. Sì, sei un fascista. Voi che siete venuti in Italia per sfruttare il popolo italiano. Che cazzo stai dicendo tu? È tutto falso. Tutto falso. Sei uno zingaro, devi lavorare. Se vieni in Italia, devi lavorare. Io lavoro, io lavoro. Sei tu che sei razzista. Nazista. Fascista. Fate le case, fate le peggio stronzate e zozzate qui in Italia. Capito? Tanto c'è la giustizia, la legge che vi copre. Sei voi. Tu che devi andare in galera per queste cose che hai detto di razzismo, io fascista, nazista. Io posso pure andare, ma ci vado a testa alta perché sono in Italia. Sto a terreno mio. Vedere se ci incontriamo per strada se mi dici stesse cose. Io sono in Maliana, va bene, vieni in Maliana. Sì, dai, dimmi dove stai. Tu ti fai addosso prima di uscire di casa di Portone. Sì, porco Giuda, dimmi dove stai, che io vengo lì, non ti preoccupare, vengo lì. Se te la fai addosso prima e scivoli sopra e ti fai male, ti devi vergognare di fare queste cose razziste. fa state zitto. Tu devi stare zitto e non telefonare in radio. Tu non devi telefonare in radio. Perché sei... fa schifo. Io non ho rubato niente. Tu mi offendi. Vergognati. Vergognati. Delinquenti. Ma sai che sembra un fumetto questo qua. Ti posso dire una cosa? Secondo te, adesso, però senza che mi arrabbi. Alza bene, la, alza la voce! No, senza che mi arrabbi, senza che mi arrabbi. Secondo te è normale? Lascia stare quello che ha detto. Ma secondo te un signore non c'ha un cazzo da fare, vedete, uno che dà il no, vieni solo se è normale, perché magari mi sono sbagliato io. Però secondo te è normale che un signore dà il suo numero di cellulare in diretta radiofonica a 2 milioni di persone, di ascoltatori potenziali, e passa la serata a rispondere agli ascoltatori, tra cui un signore rom, per 10 minuti? Io ti chiedo solo questo, non mentre, ti chiedo solo se secondo te è normale. Per te è normale? Non lo so, io no, ti spiego perché. Perché magari uno ha mille altre cose da fare. Io non dico leggere dei libri, no, non leggere libri, non andare nei musei, ma che so io, ma trovarsi la moglie, oppure fare l'amore, non lo so, o guardare un film, bere delle birre, mangiare degli hamburger, non dico andare nei musei, non dico questo, non sono lo snob musei. Però tu dici invece di passare... Secondo te è normale, voglio sapere da te, è normale dare il numero di cellulare e passare le ore, ma magari si diverte, ragazzi, magari si diverte, ma che ti devo dire? Cioè, e per te è normale divertirsi così? No, te lo chiedo. Cioè, il modo di divertirsi, questo si diverte, riceve le telefonate, che ti devo dire? E vediamo, allora, Cruciani, diamo il tuo numero. No, che dai il mio numero, sei impazzito, sai? No, ma io non ho detto che è normale. Non ho detto questo. È normale, non hai nulla da Cristian fare. Da Roma, no, dai, Cruciani, 3-4. Ciao, no, Cruciani. Buonasera a te, a Parenzio. Allora, niente, io volevo raccontare la mia storia. Che la tua storia. Mio nonno, che appunto... cazzo ce frega a noi? Cioè, no, dipende, no, la tua storia di che cosa? La tua storia dipende se c'è... A proposito delle armi. Ah, ecco, sì, interessante, sì. Perché io fin da bambino, più o meno, dagli 8 anni, mio nonno mi ha sempre insegnato a usare le armi, sia la pistola che dei fucili. Lui mi ha sempre insegnato a usarli, tutto quanto, sempre sparato, però non mi pare che se andando mai a fare una rapina o a sparare a qualcuno, capito? Mentre come stavano dicendo gli altri, no, perché se i bambini incominciano a usare le armi, innanzitutto glieli insegni e incominciano a capire qualcosa. In più, cioè, dentro casa non le lasci, cioè, mio nonno dentro casa non le ha mai lasciate, sempre messe da un'altra parte. Se te le lasci dentro casa, poi giustamente c'è un ragazzino che è curioso, una cosa un'altra, va più alta, è facile da prendere. È una follia l'idea stessa di insegnare a un bambino a sparare. Secondo me no. Ma se il nonno gli ha insegnato a usare le armi quando aveva 10 anni, ma il nonno gli deve insegnare, secondo me, a leggere un libro, ad ma che cazzo c'è, ma che tutte e due le cose non si possono fare, ma andare all'opera. Gli piaceva andare a chiaccia, ha anche insegnato a usare le armi. Ma certo, ma è normale. Ciao, Cristian. Sì. Normale, ciao, ciao. Nicola, Bologna, vai. Ciao. Beh, intanto è curioso come Parenzo, tutte le volte che viene attaccato e messo all'angolo, risponda in maniera non corretta, perché risponde in maniera sempre abbastanza messo all'angolo, non credo. Certo, messo all'angolo. Vabbè, dai, questa è la tua opinione, vabbè, dai, poi... Ma è evidente, se ascolti la trasmissione, riascoltala e poi ti accorgi. Però questo non è bello, non è bello. L'altra cosa, non è bello nel senso che non sei il partner giusto per Cruciani, l'abbiamo detto più volte. È la verità. Questo è la forza. Ecco, no, perché secondo... Vabbè, ragazzi, forza, ma basta con queste storie, partner, non partner, eccetera. Dai, no, ma chi se ne frega? Che vuoi dire, Nicola? Dai. Ma è fatto di espressione opinioni e si esprime sempre in maniera non corretta. Vabbè. La questione armi è importante, caro signor Parenzo, perché le ricordo innanzitutto che anch'io sono stato... allevato, diciamo così, da un padre che amava le armi e mi ha insegnato il rispetto delle armi. Il rispetto delle armi è fondamentale, perché conoscere un'arma, tanto che sei bambino, anche quando sei bambino, imparare a sparare con quell'arma, rappresenta un atto di rispetto, non solo nei confronti dell'arma, ma anche di chi hai davanti a te. La prima cosa era quella che ti insegnava il padre, di non puntare mai un'arma, anche se era un'arma a giocattolo. E questo è fondamentale. Luca, tu che hai figli? Hai figli? Certo. E se potessi, insegneresti a questi bambini? Non se potessi, sanno maneggiare un'arma, a una non ti frega niente. A quanti anni, scusa? A quanti anni? Uno ha 23, quell'altro ne ha 16. Quindi... ecco, e da quando hanno iniziato? Da che età hanno iniziato? Guarda, ti posso dire che io ho iniziato... 7 anni a sparare con un Flobert che aveva mio papà da casa. Sì. E loro hanno iniziato all'età di 8 anni, 9 anni a sparare con la pistola a giocattolo senza nessun problema. Però, ma non mi pare una cosa così strana, riconoscendo, ma assolutamente quello no. Quello inorridisce, allora, oddio, che va, cos'è? Ma sai, il terrore, ma è normale, è molto meglio saper usare un'arma piuttosto che non saperla usare. A Crusà, non sono di Roma, Federico era romano. A Crusà, quello che hai di fianco a te è un personaggio, il signor Parenzo, giornalista. Ma quello ha le sue idee, che c'entra? Allora... ha le sue idee di sinistra. Ma, che c'entra in questo caso? Non è mai toccare un'arma, ma non è vero, c'entra, è così. Vabbè, dai, fermo lì, fermo. Ho stappato una bottiglia di Amarone e me la sto gustando mentre ascolto la Zanzara. Alla faccia di Parenzo. JP Morgan Asset Management vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Aruba, soluzioni cloud per le imprese. Solo su www.cloud.it. La Zanzara. Parenzo, quindi secondo te un sindaco che vieta una pubblicità è più aperto culturalmente, vero? A te ti hanno dato la goccia per separare le orecchie, ti hanno dato la testa per separare le orecchie, la classica fuga del cervello, Ciao. Il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardava. Tifano per l'uscita dall'Europa della Gran Bretagna. Stasera mi ubriaco, se dovesse vincere l'Inghilterra, uscire dalla massoneria europea, ti giuro che mi bevo un bottiglione dell'Ernesto. Oggi. Guardava. Inghilterra è la squadra di calcio, però, Guarda oltre i monti. Dicono che la Decathlon appartiene alla tua famiglia, Parenzo, La Decathlon, Decathlon, sai? Ah, non lo sapevo. Senti sta roba, senti. Non lo sapevo. La Decathlon fa parte della famiglia Parenzo. Mi sfugge questa cosa, perché? Perché hai visto Parenzo che si intrufolava nella Decathlon? Io avevo sentito che l'azienda Decathlon fa parte della famiglia Parenzo. Se ne inventano di tutti i colori. Non saresti qui, la risposta, non saresti qui. Sarei lì a Decathlon. No, non saresti a Decathlon, saresti ai Caraibi probabilmente. Ah, con le palle. Sicuramente, forse sarei anche qui. No, non me l'hai detto, guarda. Comunque, senti, ma insiste. Sì, sì, la Decathlon è mia. No, senti. Siccome a mio marito hanno regalato una maglietta, allora sono andata a leggere l'etichetta, c'era scritto Decathlon made in Marocco. Ora capisco perché difende tanto il popolo extracomunitario, Parenzo. Hai capito? Yes. Per questo motivo. Guida il popolo nella scusa. Poi tu dici che non sono dei malati di mente, però. E come fai a non... come fai a non dire che non sono dei malati di mente? Senti Varin. Grazie, caro, ma no, lasciamolo stare, povero Parenzo. Lui difende perché è fatto così, ha questa deviazione. Libertà. Servi di Roma fuori. Senza dubbi né ripensamenti. L'olio bollente è sempre caldo, signori. E per i ciabattanti rompiballe, per quelli che soffiano sul fuoco delle polemiche, lo scaldiamo a dovere. Migranti che scelgono di migrare sempre, cazzo, il nord. Cioè non possono migrare da un'altra parte, devono venire tutti quanti qua. Servi di Roma fuori. Marco da Bergamo, vai. Pronto? Dimmi. Ciao Crociani, volevo farti un'osservazione riguardo a quello che avevi detto un paio di giorni fa. Sì. Cioè, con il tono con cui l'hai detto, insomma, che tipo hai detto che è meraviglioso che i gatti vengono incendiati perché, tra virgolette, danno da lavorare. alle persone. No, no, no, no, amico mio, no, no, sì, no. Tu l'hai detto con un tono... No, no, no, no, no, ho detto che è una cosa schifosa, aberrante. Sì, ma fatto un meraviglioso, ti ricordi? Ma no, no, no, beh, meraviglioso nel senso che la tecnica è geniale, se vuoi, se ci pensi. Una specie di... Ma no, ma la tecnica... Tutto questo è meraviglioso, hai detto, dopo ti sei corretto. Hai detto, ma non mi sono corretto, non mi come sono... No? Vabbè, Marco, che vuoi? Non mi sono corretto. Penso che sia un obbrobrio. Dopodiché c'è la genialità anche nelle cose tremende, nelle cose obbrobriose, nelle cose schifose. In questo caso penso che sia certamente un po' geniale. Questo sì, devo dirlo. Cioè, pensare di incendiare i gatti per sfuggire, come dire, alle responsabilità di un incendio è pazzesco. Cioè, io a queste persone darei... non la pena di morte, l'obbligo di pulire i fiumi per tutta la vita mangiando bacchi che trovano. Vabbè, adesso bastano le leggi dello Stato, adesso cioè non c'è no, bisogno. No, non bastano le non leggi basta, dello che bisogna Stato, farlo. Non bastano che... neanche per i macellai che dovrebbero essere in galera. Sì, i macellai in galera, mo mettiamo, i macellai in galera. I macellai dovrebbero essere tutti in galera. E perché dovrebbero essere criminali? Sono perché, dei criminali i macellai, dovrebbero andare in galera i macellai. Perché? Per certo, quale motivo? Certo. Perché non c'è differenza tipo tra un cane e un gatto, perché uccidere un gatto è praticamente reato e invece uccidere un agnello no. Ma a parte che i macellai di solito non uccidono, ma gli arrivano gli animali già morti, cioè gli arriva la carne già... Sì, allora quelli che fanno dove lavorano i mattatoi, non so, gli ammazza animali proprio. Cioè, ma tu chiuderesti pure i macellai però? Cioè le macellerie certo, chiuse? Certo, certo, tutte. Macellerie ma certo un cazzo, cioè, certo, è certo. Normale, scusami. Ma non posso, è normale. Non sei posso non... essere a favore di una violenza del genere, perché guarda che gli animali capiscono un sacco, Io ho trovato una gazza ladra, capisce più di te, pensa un po'. Una gazza ladra. Ma quella è quella è probabile, sacco. È probabile. Vabbè, ciao amico mio, ciao, ciao. David, ti sembrerà assurdo, ma qui abbiamo una persona che trasforma gli animali in diamanti. Cioè, ti faccio capire, so che sei stupito da questa cosa, vero David? Sì, sì, allibito, sì, certo. Cioè, si arriva anche a questa follia, poi c'è qualcuno che ci vuole fare un business, per carità, va benissimo, perché si può fare tutto. Cioè, si prende un topo, sì, ad esempio. Se uno ha un topo in casa, se una nutria ha un topo in casa che muore... Sì. Oppure anche da vivo, non lo so, adesso glielo chiederemo, e lo vuole trasformare in un anello da portare, in un diamante, ecco, più che in un anello, in un diamante da portare in giro per tutta la vita, e beh, può farlo. Allora, abbiamo un signore che si chiama Scuderi, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Allora, mi dica innanzitutto come le è venuta in mente quest'idea, cioè invece uno di seppellire un gatto o un cane, invece di cremarlo, perché ci sono pure quelli che li cremano, lei propone di trasformarli in un diamante. Come funziona? No. Allora, quando un animale viene a mancare, diciamo, sì. Cosa si fa? Cosa per si fa? Legge, adesso, sì. Bisogna cremarlo. Sì. Queste ceneri vengono portate in dei forni altamente speciali sì. E a temperatura elevatissima, sì. Dove viene estratto il carbonio dalle ceneri sì. E viene fatto il diamante. Mm. Cioè lei dice i corpi si trasformano in cenere. In cenere, esatto. La cenere viene portata dove? La cenere viene portata in degli stabilimenti sì. di Germania e Svizzera, che sono lì per tutta Europa. Sì? Scusi, quanto tempo ci vuole a trasformare un gatto allora, in un diamante? Esatto, ci vogliono, diciamo, un processo che dura dai 3 ai 6 mesi. 3-6 mesi. Vabbè, esatto. Vabbè. Mi sembra ottimo. Si può fare anche con la ex suocera? Si può fare anche con lei, cioè in teoria si potrebbe fare anche anche con le ceneri di umani si può fare, è meraviglioso, uno prende la ex suocera la fa cremare e poi regala la ex suocera alla nuova fidanzata che è un diamante, perfetto. È meraviglioso, mi pare perfetto. Da viva la vorresti cremare però tu? No, io non ho detto questo, io ho detto, per carità, questo non penso. Ho fatto un esempio per dire anche che so, Mauro da Mantova può diventare un diamante. Beh sì, basta, anche un essere umano potrebbe essere con le ceneri di un essere umano. No, si no, può no, no, ma nello specifico, pensa a una merda come Mauro da Mantova, può diventare un 8 carati, non so quanti carati. Cioè si potrebbe addirittura valorizzare da morto, tu dici? Ecco. No, bravissimo, l'unica cosa a cui serve questo. Io anzi, fossi nella figlia di Mauro da Mantova, non ci penserei due volte. Questa ambaradam quanto costa? Cioè, allora, lei quanto fa pagare questo servizio? Allora, il diamante praticamente è un diamante che va dallo 0,3 di carato, 0,5 per 0,3 all'1 carato. Diciamo che questo, il diamante più piccolo, quindi ci vuole anche meno tempo e diciamo è più economico, va dai 3-4 mila euro di costo fino all'1 carato, che è 17 mila. Cioè, se uno vuole fare un carato col morto, col gatto morto, col cane morto, paga 17 mila euro. Amico mio, ma che cazzo ci sarà che spende 17 mila euro? Dai. Uno se vuole può farlo, la possibilità c'è. Ovviamente non è economica. Beh, certo, 3-4, dai 3-4 mila ai 17 mila. Beh, qualche matto però si trova sempre, non si preoccupi, che qualche matto si trova sempre, caro Parenzo. Cioè, vabbè, amico mio, arrivederci, arrivederci. Grazie, grazie. Buona fortuna, grazie. Buona fortuna, grazie. Buona fortuna, arrivederci. Ma ragazzi, vi rendete conto? Cioè, la gente si inventa dei business pazzeschi. Cioè, questo qua con i gatti, c'è qualcuno che lo farà fare. Cioè, che si farà trasformare il cane e il gatto, perché ormai c'è una paranoia, in un anello, in un diamante. Ecco qua, il diamante. Ah, vabbè, incredibile. Valentina, provincia di Perugia, vai. Pronto? Vai, Valentina, dimmi. Ciao, Cristian. Senti, ciao. Volevo dire la mia sulla questione della pipì nella doccia. Ah, bellissimo. Tu la fai? Oh, io la faccio quotidianamente. Oh, e non posso fare a meno di farla. E non ma, come, ma che cos'è che ti fa piacere? Quando ti scivola quella cosa calda sulle cosce, no? Beh. Sì, ma poi vederla entrare nel tombino. Vederla entrare, vedere quella cosa gialla in mezzo all'acqua bianca della doccia, all'acqua trasparente. Il contrasto pulito sporco. Beh, amica mia, già ti amo. Io già ti amo fino alla follia per questa cosa qua. Per caso guarda, tu fai anche questa cosa, la doccia, insieme al tuo compagno, al tuo fidanzato, un tuo amante? Sì, guarda, no? Io me l'ha insegnato lui a farla. Cioè, fate questa pratica insieme? Questo, ma che bella coppia. Fate sì, questa pratica insieme. Pratichiamo anche il pissing, sì. Beh, praticano anche il pissing, signori. Ma che coppia meravigliosa. Vai, perché qual è il problema? Non ho capito, Parenzo, qual è il problema? Per carità, fate quello che volete. Fatevi, urinatevi addosso. Vabbè, beh, sì, certo, questo è il pissing, è quello, no, esattamente quello. Se non lo sapessi. Non è che li critico, fate quello che volete. Tu dici il fatto che raccontino questa cosa qua tranquillamente, però vabbè. Sia quello, sia il fatto di... Ma perché ti devi vergognare? Cosa c'è di vergognoso in questo? Fatevi la pipì addosso, va benissimo. Fatevi farla anche dal cane, volendo. Fatevi fare no, ma quello è diverso, cane. Che c'entra? Dai, quello è un'altra cosa. Ah, quello è diverso, è arrivato lui. Ma quello è diverso, scusami, quello è diverso, dai. E perché è diverso? Che c'è di diverso? Ma scusami, è un po' diversa la cosa, no? Cioè, Cosa c'è di diverso? Farsi pisciare addosso dal cane oppure farlo con il proprio partner è una cosa un po' diversa. Scusami, io bacio in bocca il mio partner, ma non bacio il mio cane. Beh, certo. C'è qualcuno che bacia in bocca il cane, come abbiamo sentito nei giorni scorsi, per carità. I livelli di libertà dell'essere umano sono vari. Beh, no, adesso però, insomma, baciare il cane, la zoofilia è un altro discorso. Cioè, lei si entra in un campo un po' minato. Ragazzi, comunque, va bene. No, ma Valentina ci ha voluto raccontare questo grande spaccato, diciamo, di vita familiare. Sento il suo fidanzato in sottofondo, se non sbaglio. Sì, il suo sì. Marito, fidanzato, eccetera. Ti segue, ti ama. Bene, ma Valentina, ma... Mi prega continuamente di telefonarti. Beh, hai fatto bene perché mi hai raccontato questa cosa, spero che sia vera questa cosa, ma sì, è vera e non so se hai sentito, vorrebbe anche che ci accoppiassimo io e te prima o poi. Vabbè, amica mia, questo adesso io più che altro semmai ti inviterei a mangiare sagno e fagiole con però aspetta con Valentina, stai tranquilla, la cosa è questa, che cosa volete voi due? Che io... Volevo fare lo scambio con te, va bene, ma è tutto normale, va bene. Ma guarda, in realtà abbiamo già chiamato raccontandovi anche delle nostre Messaggi, ho sentito dei messaggi, dei messaggi, abbiamo sentito. Questa però... signorina qui evidentemente ha chiamato perché anche il suo fidanzato, in maniera del tutto normale, anela che tu davanti a lui ti impossessi materialmente di lei. Ora, ragazzi miei, io sono anche perché ognuno faccia quello che gli pare. Certo, ma c'è dubbio. Se mi fate passare per normale il fatto che una giovane coppia telefoni a una radio nazionale, in più, giovane coppia di anni, di anni, Valentina? In più 31. 31 è lui? Entrambi. Entrambi 31, sì. Beh, e ottimo. In più, su suggerimento del fidanzato, il fidanzato vuole che la suddetta sua compagna sì. faccia possedere dal conduttore, da uno dei due conduttori, magari dice il maiale, e in più magari urinare addosso. Ragazzi miei, se tutto questo per voi è normale, io mi arrendo e alzo le mani, ma lo accetto. Lo devi arrendere, Valerio. Lo accetto, ragazzi belli. Ragazzi, io sono come dire spettatore di questa, di questa vostra discussione, spettatore forse anche, non so, interessato, non lo so, però ci si può pensare, c'è un'ipotesi plausibile, un'ipotesi non, che si può, va bene, sperimentare. Adesso passami un attimo. Siamo dalle parti. Sì, però ragazzi, parlate meglio perché altrimenti non capisco. Siete dalle parti? Dubbio. Ho capito, io sto a Milano, che ti devo dire? Però sei originario di queste zone. Sono di, sì, ho una dimora lì, una dimora piuttosto modesta di qualche stato. No, molto grande, 400 metri quadri con un terreno enorme in cui lavorano dei migranti pagati un euro all'ora. Quindi chiaramente non è vero, però avendo io una tenuta piuttosto considerevole. C'è anche una chiesa, tu sei proprietario di una cappella sì. in cui c'è scritto Don Cruciani, che era un tuo antenato. Esattamente questo, sì. Davvero? Però davvero? Valentina, adesso insomma, dire, troveremo il modo di andate no? lì, organizzate una orgia lì in quella sappiamo chiesa. Sappiamo che vai in vacanza a San Benedetto. Beh no, a San Benedetto che c'è. Sentitevi al telefono per i fattacci. Va bene Valentina, grazie di questo racconto. Dove andiamo? Denis Lecco, vai Denis. Sì, ciao ragazzi. Dimmi. Radio, sempre radio paraculo, radio perdi tempo, penso, no? Ma amico mio, perdi tempo, facciamo la radio, certo. Se ti piace. Beh, bene, altrimenti non ce rompi i coglioni, vai Denis. Ho capito, ma scusa, ma c'è Salvo Mandarà che l'ha messo nel sacco. Mandarà ci ha messo nel sacco? Ha messo, siete dei polli, siete dei idioti, siete. In che senso, scusami? Perché lo censurate, non lo invitate noi mai. Noi censuriamo Mandarà. Ma non gli lasciate neanche il tempo di parlare di quello. Senti, che lui va in giro a comunicare. Amico mio, sono le 20:51. Caro amico Denis, devo chiudere la trasmissione. O mi dici una cosa in qualche secondo che abbia un minimo di senso, oppure ti mando a fare in culo. Coraggio di invitarlo e farlo parlare 10 minuti. E allora vai a fare vediamo. In culo. Chiaro, vai a fare. Non volevo chiudere così, però vai a fare in culo. Ci sentiamo domani. Al Grucia, certo che sei proprio uno stronzo, eh. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.